perché la gente si domanda: ma andranno in onda questi ragazzi? Ma andranno. Ma andranno in onda questi ragazzi questa sera? Oppure a volte sì, a volte no. In realtà andiamo in onda sempre. Non siamo andati in onda soltanto una volta, che era un paio di settimane fa, era il compleanno. Ah, c'era un evento istituzionale. E poi non lo so, mo la prossima settimana sicuramente si organizzano, anche se io non ci sono, perché sapete che io non ci sono la prossima settimana. No, non lo sanno, ma glielo stiamo spiegando. Sapete dove vado? Ecco dove vado. Vado qui, vabbè. A fanculo, come diceva. Vabbè, poi magari lo raccontiamo. Ma sì, sì. Ma scusa, qua oggi siamo proprio pochi intimi, sì. Permettimi di dire, perché oltre a noi ci sono in chat Stefano e Lobby. Ma ci siamo persi un Gualdi. Ci siamo persi un Gualdi che no, presto arriverà. Sono le 20:57, vale la regola che alle 21:01 non si può più entrare. Sì, è vero, perché come ma non cinema. È che è lui che strilla da fuori? E poi se ci dice fatemi entrare, maledetti. Ma non c'è neanche Dolores stasera? No, Dolores ha detto che stasera ci ascolta da di là. Ah, ok, dall'aldilà. Da di là ci fa pure la chat, ci fa. Va bene, va bene. Cosa non faremo pur di fingere di aver ascoltato? Fra qualche minuto. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Come on everybody, benvenuti a tutti quanti a questo nuovo programma fantastico, incredibile, che tutti aspettano e tutti bramano come insomma ogni mercoledì sera qua su Runtime Radio. E GM Ottimisti genericamente mortificati con me, Simone Cusella. Ciao a tutti. Ciao. Senti, ciao, come belli. Troppo giusto, Simone Cusella. Minchia figa, troppo giusto. Walter Sbano, buonasera. Apro con due, non uno, ben due messaggi alla regia. Il primo è: dovremmo rifare l'asset dicendo Runtime, la radio geek presenta. Lo so. Però vabbè, en passant. Ma in realtà dovremmo rifarla anche per altre ragioni. L'altra cosa, per il semplice motivo che fa schifo. Un appello alla regia. Sì, però ci accompagna dagli esordi. Però vabbè, regia, una richiesta. Prepara sì. Un contributo triste, perché dopo dobbiamo parlare di Adrian. Ok, ma no. No, signora. Stai calma, perché qui dietro abbiamo una signora che è venuta a trovarci. Che ci fa da pubblico, la fa sfegatata, che ogni tanto ha detto di partecipare, pure lei vuole partecipare alla nostra trasmissione. Comunque vi saluto. No, signora, stia calma, non abbiamo ancora detto niente. Ma poi è anche autonoma, cioè nel senso fa da sola. Vabbè, stia calma, signora. Comunque vi saluto, ciao, io vi saluto. Ciao. Sono stato presentato, sono Giorgio Alighieri, il nuovo alter ego di Marco Gualdi. No, quindi... invece Marco Gualdi, non diciamo cazzate, per favore. Però invece questa sera una cosa importantissima. Ora lui starà zitto tutta la puntata, perché gli ho detto di cazzate. No, io c'ho Armando. No, quello è Cusella. C'ho Armando Meligoni qua, che è il ragazzo TV. È il ragazzo che sostituirà Marco Gualdi da adesso in poi. Quindi Marco, devi uscire, perché esci per favore, che quella è la porta. Quella porta. Esci Marco, esci. Io uscirei, ma se Cusella se leva, scusa, cioè scusa, fammi passare. No, cioè, posso, qui qualcuno deve uscire. Se posso, io dico che deve uscire, deve uscire, non è che può fare quello che cazzo gli pare. Io vorrei entrare, ma tu devi uscire, lui che deve entrare. Devi uscire, devi entrare. Devi entrare. Tu non puoi passare. Io allora non me ne vado, mi spiace. No, signora, io non me ne vado, io sto qui fermo. Questo pare essere successo in uno stadio inglese durante una finale di Coppa di Lega, Coppa d'Inghilterra o qualche coppa, insomma. Dove... No, non dire Coppa di Lega, che Salvini parte subito con l'affettato. Coppa della Lega. Che praticamente, insomma, il Chelsea pare aver perso ai calci di rigore. E prima dei calci di rigore, dopo una partita, insomma, 0-0, che... insomma, tutto sommato, due coglioni. Lo 0-0 comunque è un risultato nobile, perché vuol dire che comunque le squadre sono di pari livello, si sono fronteggiate in qualche maniera, e quindi se vai a calci di rigore. E sai cosa hanno detto i tifosi? Che palle! Sì, brava, si è detto proprio così. Beh, signora, però lei basta, stia cioè, tranquilla, è tifosissima del Chelsea, esatto. E Sarri ha detto al suo portiere, il portiere ufficiale, gli ha detto: maledetto, esci perché faccio entrare lui, che è più bravo a parare i rigori. Vi ricordate? Non l'ha presa proprio bene. No, vi ricordate del Reuri quando faceva il milanista e passo? e pass. E pass. Caccamo. No. No, quella no, era Pio Pericoli. Pio Pericoli, cioè, Pericoli, pass. Vera. A me, passa a me, così. È così, più o meno ha fatto così. Il portiere, diciamo, si è un po' stizzito di questa improvvisa e inaspettata sostituzione. E però ha abbassato la cresta e ha detto: no, non ha abbassato proprio la cresta. No, no, non mi pare no, proprio. No, no, vabbè, no. Però ha detto: vabbè, cioè, però so che, però alla fine. Io ti vengo incontro, io ti vengo incontro. No, no, proprio no. No. No. Ma non vabbè, soltanto ma succede, il portiere, ragazzi. Non è uscito e si vedeva. Aspetta, fammi indovinare. No, non è uscito proprio. Tutta la squadra gli ha detto: ma che cazzo stai no, a fare? No, no, no, proprio sono andati là, gli hanno dato le pacche sulla spalla. No, forse lo stavano picchiando. Forse lo stavano picchiando. No, no, gli presentavano le pacche. Allora no, allora c'è stato niente. Bene, al grido bene. Di Toscano infame, per te soltanto lame. A un esatto, certo, insomma, niente, non è questo. Toscano infame per te. Lemmy, una cosa del genere. Oh, ragazzi, posso praticamente, però, chat, finisco però, di vai. Dire questa cosa: che praticamente le telecamere della televisione inglese che hanno fatto hanno indugiato su quello che oramai è lo sport nazionale, cioè vedere Sarri che bestemmia in lingue che loro capiscono perfettamente. Insomma, maledetti. Volevo salutare gli amici in chat che ci hanno raggiunto fin dall'inizio, cioè, di questa due, puntata due, Stefano Lobby Frontali e Peppe Rizzard. Tutti che però è un incognito, quindi devo dire Blade Rizzard. Sono comunque persone che a noi mancano, se non ci sono, per cui fanno no, bene. No, infatti sono i nostri, come dire, i nostri amichetti del mercoledì sera, non possono mancare. Vabbè, silenzio. Momento di tristezza. No, ho avuto un rigurgitino, me ne scuso. No, ma più che altro questo fatto che, ragazzi, non ci siete. Perché non ci siete? Dovete esserci. Ma ci sono, ma siateci, sono per si favore. Perché insomma, se no mi viene. Anche io mi vergognerei. Infatti, chi può fare? Solo una cosa. Maledetti! Signora, stia calma. Se non ci calma. Siete, ci fate. Ragazzi, è appena arrivato Marco Borzacconi che ci dice: ci sono pure io. Oh, grande. Peccato che sei uno, ma se eri più di uno. Sei trino, se... infatti. Beh, ma è un po' come dire un momento di ringraziamento a tutto il nostro audience, che quindi si concretizza con dei maledetti, perché mica ce n'è solo uno, sono tanti maledetti che ci ascoltano questo programma, tutti gli altri programmi che facciamo in diretta o in differita su Runtime, la Radio Geek. Che poi io vorrei sapere, guardi, dato che ce l'hai lì dietro alla signora, potresti Marco, chiedergli ce l'hai lì dietro? Sì, okay. No, la potresti signora. Chiedere alla signora però, se sì, cioè, con chi ce l'ha, con chi aspetta, ce l'ha la aspetta, signora aspetta, perché aspetta però portare... con calma, perché sennò questa un po' esagerato, quindi... no, perché la... a me mi faccia chiedere, signora mi faccia chiedere, ce anche con noi. Niente, allora... probabilmente sì, probabilmente. Ce l'ha col perché io pensavo ce l'aveva, che ne so, con il fatto che giustamente Di Maio, che ha capito lo stato di premorte del suo partito, ha fatto una cosa intelligente, cioè quello che pochi politici fanno, ha cambiato tutto di quello che riguarda tranne se stesso, cioè no, nel aspetta senso... aspetta Pizzi, allora intanto ti prego, se non vuoi che io mi alzo e me ne vado e lascio la diretta, vai. Di Maio ed intelligente nella stessa frase, infatti, non ce li metti. Eppure qualche volta succede, ma perché? Come non ha fatto niente di intelligente, no, ha fatto soltanto il gioco delle tre carte, appunto, cazzo, cioè, vabbè, sì, in Italia funziona. Però, cioè. Ha applicato la teoria di tutto quello che i partiti tradizionali hanno sempre fatto, cioè del puro e semplice trasformismo. Oramai il Movimento 5 Stelle non ha, allora, è diventato garantista, non esistono più i limiti, no, è sempre stato i limiti dei mandati, sempre stato garantista, no, cioè, era garantito, ah, okay. Poi stato. Non esistono più i limiti dei mandati, quindi... ma è ufficiale questa cosa dei mandati rimandati, sì, sì. Per le comunali, per le comunali, in teoria, soltanto... no. No, Di Maio l'ha spiegata bene questa cosa. Ha detto: se una persona che è stata all'interno del comune o della regione ha talmente acquisito esperienza che è giusto che venga anche rieletta, anche dal punto di vista parlamentare. Ho capito, ma devi essere stato prima in regione, in quindi uno comune, se fa due di qua, due di là, due di là, e alla fine fa il politico, okay, per tutta la vita. Ma cioè, non senso... dovrebbe valere per lui, infatti, che inizia direttamente ha già fatto... da quindi, dai piani no, alti. Però può retrocedere, può andare a fare il governatore. Aspetta, per me se va a fare il sindaco da Cerra va benissimo. Ma anche il sindaco di casa perché sua, poi lui ha detto esatto. No, qui bisogna cambiare perché c'è giustamente le batoste che abbiamo preso ci hanno insegnato che stiamo perché perdendo su forse tutti i fronti, l'esperienza sai potrebbe tornarci utile, però a me no, io so la guida politica e per altri 4 anni non me schiodo. No, praticamente ne ha minacciati altri 10, quello è il problema. Allora lui ha detto per ora per 4 anni, sì, nel senso che lui voleva sottolineare il fatto che non è successo niente, il governo non cadrà, i 4 anni erano il residuale, sì, sì. di questo governo. Non cade qua. Ma secondo me c'ho qualche dubbio. Però colla ma non molla. Effettivamente, esatto, sì. La signora, no, che era leggerissimamente concitata, urlava: maledetti! Con chi ce l'aveva? Il dubbio con chi ce l'avesse è forte, perché ha sorpreso alle spalle il giornalista di Sky e ha esternato la sua rabbia cosmica, ma poteva avercela con chiunque. Esatto. Ecco, ma io sono. Sai chi me la ricordo? Sono rattristato. La taverna. Insomma, mi ha rattristato invece quel povero Cristo lì davanti, che mi si è sentito taverna, gridare alle spalle, sera. E lui stava lì come faccio. Piccolo, non sapeva come reagire. Sono lontani i tempi di Paolo Fraiese, che prendeva. Paolo Fraiese gli avrebbe dato un cazzotto in panza, la signora avrebbe stesa. Totti è brutta bagaccia. Ti ricordi Fantozzi quando picchiava? Brutta bagaccia. Io non riesco a capire questo fatto che questi giornalisti si paralizzano di fronte a queste situazioni. Forse perché non è un giornalista. Ci vuole una prontezza di spirito che non è da tutti. È vero che maledetti così all'improvviso. Esatto, cioè. Ma io come minimo sarei sbottato a ridere. Io prima mi sarei spaventato. Infatti ci è voluto anche aplomb. Perché sai, non è come Paolini che ormai lo dicono. Come Paolini che lo riconosci da chilometri, arriva. E sai che Paolini sta in galera. Adesso sì, ma era un po' un pedofilo. Ragazzi, comunque, invece qualche problema già aveva. Sì, sicuramente. Volevo leggere questo contributo di Lobby Frontale in chat, che giustamente ci dice: non dimentichiamo che Grillo ha detto: ho creato un mostro. Ma non solo, si sta cominciando a rendere conto anche Grillo. Non solo ha detto però questo, lo dico con il cuore in mano. Grillo, con tutto il rispetto, non sarebbe mai stato in grado di creare un mostro. Il mostro ha creato Caseleggio, che non si aspettava di morire anzitempo. Perché poi il problema è stato veramente questo: tutto è saltato per aria quando è morto Caseleggio Senior, che era l'eminenza grigia, che da dietro comunque riusciva a tenere le fila, riusciva un po' a domare questi personaggi un po' in cerca d'autore che si ritrovava come referenti nazionali. Domare non lo so quanto li domavano, però comunque un po' di più, sì, dai. Il discorso è che comunque sì, cioè questo l'hanno, si è piazzato là, ma io proprio ce l'aveva proprio la faccia dal principio, io non riesco a capire, pure le persone che lo votavano, cioè è una cosa incredibile. Russo. Cioè tu lo vedi lontano un miglio che quello c'ha la faccia del gran fio della mignotta che si è piazzato e mo col cazzo glielo levi, perché poi è questo. Comunque Grillo ha detto anche una cosa importante: ha detto probabilmente non siamo capaci, non siamo pronti. Sì, il mondo non è pronto per questo tipo di democrazia diretta. Ha leggerissimamente percepito l'inadeguatezza tecnica di alcuni, ma solo di alcuni. Che è quello che hanno voluto loro, poi fondamentalmente. Perché... Li hai presi praticamente dalla strada, ma nel senso che veramente li hai tolti dalla prostituzione, e questo è il risultato. Nella prostituzione ci sono ancora, credo. In ogni caso. Vabbè, in quanto politici, sì. Assolutamente. Nel frattempo, io vorrei far notare una cosa importante: che il PD, che ha colto in maniera proprio incredibile il momento, ha detto: allora li diamo le primarie. Esatto. Le primarie, perché giustamente è meglio di presentarci, ragazzi, uniti, no. Dice, vabbè, dai, questo è il momento in cui salviamolo questo paese da questa deriva morale. Loro non vogliono andare al governo, loro hanno paura di andare al governo. Ragazzi, qui c'è un problema, che il PD è tutt'oggi composto da due metà. E il PD? Esatto, una metà è ancora convinta che bisogna chiedere scusa a Renzi e ripartire da Renzi. Ma poi scusa di che? Scusate, noi stiamo esultando qui insieme a Gusella, perché è arrivata la cover della puntata di Videoludica che uscirà sabato. Capolavoro. Mi spiace, non so come, non me la posso far vedere in anteprima. Mi dispiace. No. O forse sì, mo faccio un evento su Facebook mentre che loro parlano di politica. No, scusa, non possiamo parlare di politica. Intanto è arrivata anche Maria Pina in chat, che ci dice brutti. E brutta. Brutta, quale può essere se non brutta? Che la signora ha graziato ogni tanto. La signora c'ha la vena proprio sulla fronte, quindi teniamola. Se non credi che scoppiano, quindi signora, viola, infatti. Cerchi di mantenere la calma per i prossimi 20-25 minuti. Ma poi signora ce lo dice poi con chi ce l'ha? Secondo me è cosmico. Scuote la testa guardando verso il basso. Secondo me no. Ce l'ha. E vorrebbe dire anche dell'altro, esatto, secondo però me. No, non andiamo oltre. Si calmi. Io volevo chiedere a Pizzi se intanto mi porge l'asset triste. Ah sì, aspetti, non ero pronto perché stavo facendo tutt'altro, chiaramente. Stava guardando le copertine delle altre trasmissioni. Esatto. E via. Allora, premetto che farò mie le parole di Sinergo, che è uno youtuber molto famoso in Italia, quindi non sarà esclusivamente farina del mio sacco. Però nel raccontarvi il fatto che dopo due settimane di malanno di stagione, il sommo Adriano Celentano ha preferito far rimandare la messa in onda delle puntate rimanenti di Adrian, la serie evento, a settembre, ottobre, è tutto da vedere. Perché lui voleva esserci. Perché si deve riprendere da questo malato. Lui vuole di esserci al 100%. Perché lui c'ha sta malattia e dice: no, io questa malattia prima di settembre, ottobre non me la faccio, non mi riprendo. Non me riprendo. Io bisogna dire anche ad Adrian, anzi ad Adriano Celentano, che non si guarisce dalla morte. Minchia pesante. No, però volevo dire questo perché, appunto, facendo mie le parole di Sinergo. Ma chi è sto Sinergo? Sinergo è un youtuber italiano. È uno dei... Ah, ma quello pelato, sì. Quello pelato, l'altro giorno l'ho insultato su una cosa Canon di Nikon. No, vabbè, sì, lascia stare. Però, ecco, lui ha giustamente detto che la colpa del fatto che Adrian è stato rimandato da destinarsi perché ovviamente ha avuto ascolti sotto lo zero dipende anche e soprattutto dal fatto che i fan di Celentano, dopo averlo difeso a spada tratta perché solo perché era Celentano, perché esistono, poi Adrian non l'hanno visto. Esistono, certo che esistono. E non avendolo visto, hanno lasciato a noi. Scusate, esistono i 5 Stelle, cioè non quindi, possono esatto, esistere dei fan di Celentano. Esatto. Cioè. Quindi esistono anche, che ne so, dei fan fan maledetti, bravo, Lino calma, minorità, 20, 20 minuti di calma, signora. Sì, esatto. Prende la sicchina, prende la sicchina. Ragazzi, se Minoretano campa ancora di... Cioè, non, io non so, signora... ma è morto Minoretano? No, quello... Signora, mi lasci la mano? Mi lasci la mano? Che schifo! Cioè, capito? Guardi, la pasticchita per farla... Guardi, maledetta! Guardi, maledetta, signora! Guardi, cioè, fatti a fanputa sta mano! Me la faccio amputare, che schifo! Cioè, io ho dato la pasticchina per farla stare tranquilla, perché la vedo che è agitata. Forse no, secondo me gli devi dare un campanello. Un calcio. Un citofono? Un campanello. No, no, no, no, meglio... Forse il citofono si muoiola a prendere. Comunque, te stacco il tuo, Pizzi. La questione è questa, che a noi che Adrian ci ha fatto veramente schifo, vogliamo, pretendiamo di sapere come va a finire, perché l'abbiamo presa come una sorta di punizione divina universale. Io no, tanto lo so come va a finire. A merda. A merda, quindi sì. Cioè, tu se scopa qualcuna e finisce. No, quello è l'inizio. Ma finisce anche così. Insomma. Adesso per un po' non chiedetemi interventi perché sto quindi lavorando alla regia. Guardi, sarà praticamente una sorta di uruboro della comunicazione, questo serpente che si morde la sua uruborra. Uruborra. Fa la schiuma, ma non inizia e non finisce. C'è un ruborra, esatto. Vabbè. Ma da OGM si impara. No, signora, do la pasticchina, signora. No. Ecco. Si imparano tante cose. No, signora, Marco, non si guarda ingoia, che... Marco, no, non Marco, si scusa, ma l'hai presa dalla seconda o la terza boccetta? La seconda. Gli dato il Viagra, Marco. Vabbè, ma tanto una femmina. Chi gli fa? Io faccio. Oddio, gli sei la pressione, però. Questa tanto schiatta. Quella con pisciampiedi. Questa c'è schiatta, comunque. Vabbè, signora, se avverte il capogiro, si stenda. Cioè deve avvertire il capogiro. Avverti il capogiro. Avverta il capogiro e si stenda. Esatto. Il capoeira. No, ragazzi, tra l'altro volevo raccontare questa cosa al di là della di questo semi coccodrillo a Celentano, perché poi secondo me finirà che Mediaset approfitterà, diciamo, di questo momento di oblio e farà dimenticare a tutti Adrian, cioè, perché me, è stato un fallimento. Cercherà di far morire Celentano proprio direttamente. No, ma lì sarebbe il momento poi di ripresentare, esatto, Adrian, perché l'opera postuma, l'ultima fatica di diventa postuma, esatto. E lì sono. Secondo sono me se la tengono stretta aspettando che lui muore. Cioè, e secondo me fosse che questo sta male per davvero. Ma mettiamosela là. Appunto dico, non si guarisce dalla morte. Esatto. No, ma invece sempre a proposito del nostro maledetti, io volevo raccontare al volo questa cosa, perché Frankie High Energy, il noto rapper italiano, ha praticamente pubblicato sul suo canale YouTube una versione in loop di Maledetti che dura 30 minuti ed è stato bellissimo. Non era un'ora, però no, è stata bellissima. Si chiama un'ora di Maledetti. Aspetta, la cosa importante è che dici, cioè, un'ora di Maledetti, è vero. Il testo con quale lui ha giustificato, esatto, dice: il commento dice: da oggi è evidente a tutti, sono maledetti e sempre lo saranno. Per vostra comodità, qui troverete un loop di un'ora del messaggio per una comprensione migliore e una divulgazione capillare. Cioè, ma se, come dire, il sunto della genialità, dell'efficacia di un messaggio di comunicazione, altro che i nostri politici. Vogliamo Frankie High Energy in politica, ragazzi, bravo, bravo, bravo. E poi diventa il Movimento 5 Stelle. No, io non credo che diventerebbe il Movimento 5 Stelle. Il PD riparta dalla signora dei maledetti. Esatto. Esatto. Intanto Pier G, che nel frattempo ci ha raggiunto in chat e non aveva ancora salutato, mi scuso, ci dice 1-0 Atalanta. Contro chi? Con la Fiorentina. Semifinale di Coppa Italia. Di Coppa Italia. Interessante. Ragazzi, ma la scoppola che ha preso la Juventus dall'Atletico Madrid, così pum pum 1-2, per non sapere ma dai, ha perso? Io mi soffermerei sul gesto che Diego Pablo Simeone ha fatto a fine partita. Però si è scusato, a differenza di altri, poi dopo si è reso conto, si è scusato. Forse non ti ricorderai, ma ha fatto lo stesso gesto alla fine di un Lazio-Roma molti anni fa, però vabbè, insomma, è un vizio che non è carina sta cosa, però, devo dire. Un attimino si vede per capriccio. No, però non me lo ricordavo il... Cosa ha fatto? Ha fatto vedere il dito? No, praticamente si è preso le palle, ha fatto capito, insomma. Ma su chi gioca? Tipo prendi Moreno. No, Simeone allena, Marco, sei rimasto a 20 anni. No, non so, non, Diego Simeone non, non guardo il calcio dell'Atletico Madrid. Io il calcio lo assumo, ma non lo guardo. Mi rendo, tu i calci. Ma secondo me manco l'assumi. Tu il calcio lo assumi. Gusella non li assume, non abbastanza calcio. È abbastanza. No, non credo ai calci volanti. Vabbè, ragazzi, insomma, venendo a noi, no, che ci abbiamo in scaletta stasera? Niente, come al solito. Come al solito. Ci saluta Michela De Paola che dice salve. Secondo me ci chiama da un altro fuso orario, secondo me è lontanissima. Abbiamo tanta voglia di fare cose. Però possiamo chiedere a Michela De Paola se ci porta, che ne so, tipo da bere, ad esempio. Un messaggio così. C'erano delle birre nel frigo che aveva portato il buon Sbano l'altra volta, che sono state bevute nel frattempo. No, non credo, no, non credo. Bevute, hanno il frigo dentro. Alcolista che beve, che beve. Poi io sapete che se le appunto se ed le, ecco anche Leo Vargion che ci tipo ciao bellissimi. C'è ciao anche Leo. Il mio limoncello forse. No, allora dico semplicemente al nostro caro amico Leo Vargion, e qui così lo sputtaniamo pubblicamente, che noi stiamo ancora aspettando le nuove sigle. Gli asset perché questo, come tutti sapete, è la trasmissione con gli assets più brutti che dell'etere in generale di runtime. Però secondo me noi ce ne facciamo un vanto di questa cosa, ci siamo talmente tanto affezionati. 2-0 Atalanta, a me con Bonzo po. Vabbè, mi sa che insomma Fiorentina. Aspetta, io devo capire una cosa, ma la Juventus rischia di uscire dalla Champions League, sì. A meno che non ne fa 3 a Torino al ritorno la prossima settimana, che potrebbe anche essere, perché per carità, che peccato. Sì. Certo che dopo che ha comprato Cristiano Ronaldo a 100 rotti milioni di infatti euro, secondo me era il più incazzato di tutti, perché secondo me Ronaldo della Juve in sé non è che gliene freghi tanto, lui voleva andare a vincere altrove, più coppe con più squadre possibili, cioè nel senso, perché era quello il record. Ragazzi, il problema è grosso, perché la Juventus continua ad averci questo anomalo dualismo, no? Perché per il calcio italiano è troppo più forte per qualunque avversario dalla seconda in poi, distruggendo il calcio italiano. Esatto, distruggendo suo malgrado, perché se gli altri sono immobili, loro ne approfittano. Il problema è che poi in Europa, con tutto Cristiano Ronaldo, con tutti i soldi che spendono, non riescono a, come dire, a rompere questo tabù della Coppa. Poi sono arrivati in semifinale 2-3 volte negli ultimi 5-6 anni senza Ronaldo. Ora che hai fatto l'investimento, rischi di uscire agli ottavi, è brutto. Lo fanno. È veramente, veramente brutto. Molto lo fanno, e questo è una cosa. C'è sempre l'anno prossimo. Che abbiamo ragionissimo e si scusa. Bene, va bene, allora accettiamo le tue scuse. No, non fare come il Movimento 5 Stelle, qui non basta scusarsi. Esatto, ti devi dimettere. Neanche autosospendere. Vogliamo parlare del fatto che stanno per espellere la sottosegretaria al Dipartimento di Giustizia, credo, alla giustizia, che praticamente per giustificare il fatto che non aveva dato dei rimborsi, è stato un errore. Ha messo in mezzo l'estate, ragazzo, è stato lui. Ma lui ci ha preso i soldi, se stava a curare, guardate come sta male, se è andato a curare non mi ha detto niente. Il problema è che a un certo punto questa denuncia è stata archiviata, di conseguenza è stato accertato che lei ha mentito. Perché i magistrati si sono guardati in faccia e ha detto ma sti WhatsApp dove lei dice che sta per denunciare il ragazzo perché gli ha detto Casalino? Sì, ma infatti un casino atroce. mi sa che archiviamo. Solo che lei, insomma, non è che stava proprio come alla sanità, all'istruzione, no, stava alla giustizia. Quindi una persona mendace nel peggiore dei posti possibili. Beh, la giustizia, d'altronde, se tu consideri che un ministro dell'interno della Repubblica Italiana oggi è andato in carcere a trovare un criminale, insomma. Sì, lasciamo perdere, veramente. No, non lasciamo perdere, diciamolo, perché è una cosa importante, no? Perché per la sua costante propaganda di merda che sta facendo, merda, diciamolo. Volevo salutare. Volevo salutare gli amici della Ligos qui nel furgone fuori. Chiedi alla signora cosa pensa del fatto che il ministro. Signora. No, niente. Maledetti! ha preso la carica, è venuto da lontano, è venuto da lontano, è andato a trovare quel negoziante, era un negoziante, non era, mi ricordo, sì, quel tizio che praticamente ha ammazzato il ladro per legittima difesa. Quindi andava là e ha detto bravo, bravo. No, aspetta, non è legittima difesa, perché fondamentalmente stava in galera. Esatto, i giudici hanno stabilito che ha sparato con l'intento di uccidere, se no sarebbe stata legittima difesa. Perché lui, questo tizio, questo poderoso criminale, che stava, mi sembra, con una pistola a giocattolo, che è addirittura una dovrei cosa, andare a controllare. Mi sembra che era con una pistola a giocattolo, stava pure di schiena, quindi era un pericolo terribile, e poteva scoraggiare addosso, la voglia, prendeva fuoco e moriva ossionato, cioè una cosa terribile. Vabbè ragazzi, ma noi stiamo in una fase in cui ogni politico, ogni ministro eccetera parla di cose che non gli competono, senza soluzione di continuità, che non c'è un cazzo. Oggi per esempio Bonafede, che è ministro della giustizia, Foffo DJ, ricordiamolo, è ministro della giustizia. Chi è? Prima di essere ministro della giustizia, Alfonso Bonafede faceva il DJ in una discoteca, mi pare di Acireale, con il nick di Foffo DJ. Questo è il suo curriculum. Vabbè, fatto sta che oggi è il ministro della difesa, va bene, prendiamo atto. Si è espresso sulla TAV, per competenza ovviamente, ha detto è un'opera senza senso. E certo, la difesa, a me non mi serve per difendere la TAV, per me è senza senso. Beh, oddio, c'ha ragione, ma c'ha ragione, poi sta lassù, ma a me che me frega, io devo difendere qua, da ste parti. Certo, è giusto, è vero, cioè, ha detto una cosa sacrosanta, per lui non ha valore, cioè, il ministro della difesa. Vabbè signora, aspetta, scusa, la boccetta quella di sinistra, va? Sì, quella lì. Cioè, prende. No, prenda, bravo. Mo dovrebbe stare tranquilla per un pochetto. Ha inghiottato la pasticca, signora, guardi signora, inghiotta la pasticca e poi magari dica quello che deve dire, se no è macello, poi finisce che asfissia. Vedi, si è calmata, vedi, si è affievolita. Vabbè, ma parliamo un po' di cazzi nostri anche, no? Strano, non lo facciamo mai. Ma avete visto Chef Rubio che ha dato il coglione a Salvini? No. Un momento. Vabbè, allora, aspetta, Chef Rubio ha dato il coglione a tutti. No, un momento. Sono due mesi che nella vita non fa altro. Non è iniziato oggi. Comunque, a me mi è piaciuto l'intervento di Rubio, che tra l'altro che ha fatto in macchina col cellulare o roba del genere, sul discorso del perché siamo diventati razzisti. Che Chef Rubio c'ha sta particolare che a volte è un po' sopra di righe, insomma, è un po' rustico. Diciamo che però io devo dire che quasi lo eleggo, insomma, diciamo a portavoce dei miei pensieri, perché dice in maniera imprechevole ciò che io vorrei dire in maniera ancora più imprechevole. Quindi, solo che bravo. Se lo dici tu nessuno lo coglie, esatto. Se lo dice lui. E infatti meno male che c'è qualcuno che lo dice. Però mi permetto di dissentire solo con alcune sfumature. Chef Rubio in realtà è anche relativamente giovane, credo che abbiano 35 anni. Però ecco, voglio dire, io sono d'accordo con tutti i suoi sproloqui, passami il termine. Però parto da un presupposto diverso dal suo. Noi siamo sempre stati il popolo che viene fuori oggi, non lo siamo ritornati, non lo siamo diventati. Siamo sempre stati un popolo di razzisti fondamentalmente. Però quando c'è un minimo di benessere facciamo finta di non esserlo, perché siamo anche ipocriti. E poi quando invece subentrano i periodi di fatica, i periodi di recessione perenni, quelli proprio che continuano negli anni, allora viene fuori il nostro lato peggiore. Ed è uno di quei periodi. Ma siamo sempre stati così. Sei in uno di quei periodi? Pure gli americani ci stanno, considerando che loro teoricamente sono usciti dalla situazione peggiore. Però il problema è che siamo gente che teniamo i cellulari col suono attivato. Questo uno a caso, No, vabbè, ma sto interagendo. Sta interagendo con le persone. Sto lavorando per runtime. Signora, lei che cosa ne pensa di chi tiene i cellulari col suono acceso durante la trasmissione? È brava, fa bene. Ma signora, però lei comincia a diventare un po' monotona. Senza rispetto. Vabbè, io comunque. Vabbè, cominciamo a raccontare un po' di cazzi nostri. Allora, tipo, guardi, c'hai qualche cazzo da raccontare? Ma no, io questa cosa la farei raccontare. La introduco io e poi la faccio raccontare da Guselle, che lui è simpaticissimo. Una parola a testa. Santaglio proprio. Ci farà 10.000 battute. Una parola a testa. Allora, praticamente, ieri io e Guselle abbiamo fatto un simpatico video. Due volte. Tre. Perché, anche tre volendo. Sì, vabbè, perché stavamo provando. L'abbiamo fatto talmente bello che abbiamo fatto le prove prima per farlo così bello, praticamente. E poi siamo usciti a prenderci una birra e siamo andati in un modo. Di cosa l'abbiamo fatto? Di un gioco. Di un gioco, esatto. Un gameplay che vedrete prossimamente sui schermi di Videoludica e Channel. E abbiamo fatto questo simpatico video e siamo andati a prenderci una birra per festeggiare questo lavorone che avevamo fatto. E siamo andati in un noto locale del posto. Che posto? Questo posto. E praticamente in quel posto. E abbiamo preso una birra. Nel frattempo c'era una figura del posto. Di quel posto? No, sempre di quel posto. Del posto. Che è piuttosto ricorrente nel fatto che si ubriaca a merda e comincia a parlare da solo e a urlare con il vento e a prendere a cazzotti le cose, tipo le serrande e le paline, quelle delle pubblicità. E quindi niente, ha cominciato a sprologhiare, a parlare, a dire delle frasi che sembrava la signora, però non la facciamo parlare. Sembrava la signora che urlava. Poi che diceva, Cusella, che cosa diceva? Ma niente, cosa a caso diceva, io non ho capito una parola. Perché si sono girati, c'era sto qua in mezzo alla strada con la sigaretta in mano. Che ce l'aveva con qualcuno davanti a lui, ma tipo 20 anni luce davanti a lui, non lo so, vedeva lo spirito. Nonno, vedeva nonno. Può essere. Però ci litigava con nonno. Quindi, ma tu ce l'avevi un rilevatore dei campi elettromagnetici, per esempio, che era importante per sapere, insomma, se magari. Purtroppo no, siamo usciti senza rilevatori. Che schifo. Prendersi una birra non si porta il rilevatore. Quindi questo che bestemmiava. Peggio di tutto ha iniziato a prendere a pugni insieme una saracinesca. Esatto. No, prima di tutto ha preso a pugni una palina, praticamente un cartellone pubblicitario. Belin genovese, lo spazzino fa Belin. C'ha ragione Michele De Paola, io e Gusella abbiamo fatto un video insieme, non è che proprio suonava proprio bene. Un bel video. E Piergi dice giustamente, belli i gameplay che facciamo, bravi, grazie, lo sappiamo. Ci vorrebbero più Piergi in questo mondo. Poi è accaduto... Perché se no siamo a 20 visualizzazioni. Esatto, almeno 20.000 ce ne sarebbero i Piergi. Poi gli è accaduto il cellulare, perché ovviamente questo poveraccio che gli hanno regalato un cellulare di plasticoni, quelli proprio tipo Nokia. Io lo so come ha reagito. No, in realtà è stato, signora, tranquillo. Michela vuole sapere se era il tipo dei peluche. No. C'era anche lui, ma era tranquillissimo. Ah, quindi c'era un raduno. E praticamente. Poi vi racconto un aneddoto. Ha preso questo cellulare che gli era spaccato per terra. La racconta. Tipo questo che è appena caduto. Esatto, e ti sta bene. Tu sta sempre a giocare mentre fai le dirette. No, lo stai facendo dalla tasca. È dalla tasca. E perché ci ha messo una tasca? Perché stai a giocare. Se l'era intascato. Quindi praticamente ha preso questo cellulare che gli era appena caduto e ha deciso di chiamare qualcuno. Ma non sapremo mai chi. Ma magari non è nessuno. Faceva finta perché io in realtà volevo telefonare, ma mi è caduto. Non è perché sono ubriaco. Infatti, ho cercato di chiamare la guardia per farsi restare niente. Poi che altro ha fatto? Niente, ma se poi vi racconto, entro io a gamba tesa raccontando il lato divertente del tipo del peluche. Io ho capito, Michele, a chi si riferisce. Che è uno dei mattarelli di zona che ha una particolarità. Per varie vicissitudini nella sua vita che non staremo a raccontare, c'è la morte con i carabinieri. E li riconosce un po' tutti. Anche le donne, insomma. Anche in borghese. Se non che non soltanto ce l'ha con i carabinieri, ce l'ha anche con le mogli dei carabinieri, soprattutto quando queste mogli lo vanno a stuzzicare proprio perché aspettano la prova. Ed è bellissimo perché io vedo questa coppia di amici, lui carabiniere, lei moglie di carabiniere, passano, lui li riconosce, lei che lo guarda subito male perché un po', come dire, gli dà un po' fastidio, lui attacca: perché tu sei una mignotta e lui è il tuo pappone. E cioè, ovviamente riferendosi al marito, che porello cerca sempre da bozzare, anche perché che devi io fare? Darei sempre che Monterotondo è il posto dove ha passato i primi 20 anni della sua vita David Lynch, quindi... ma anche Curcio il brigatista, lo ricordiamo Curcio. Sempre sì, perché Renato Curcio, perché poi viene Armando che è l'editore, no. Renato Curcio, noi abbiamo dato ma lui infatti a un certo punto era deciso in questi 20 anni se fare il regista di film o terrorista, dalla chat il rapinatore, ha deciso di fare altre cose. Dalla chat chiedono a voce viva i video, vogliono vedere i video. Ma questa è una radio, non si può, mi dispiace. No, uscirà presto su un sito molto famoso. You qualcosa. Porno qualche cosa. No, era you qualcosa, you qualcosa. O X qualcosa adesso. Anche XXX qualcosa, certo. Oh, almeno hub. Si monetizza, scusa. Hub, anche hub. Si monetizza. Hub, qualcosa hub. Era YouTube 8. Si monetizza, perché si monetizza, capisci? Che stress, ragazzi. Bello. Sarà una puntata lunga, difficile. No, possiamo anche chiudere la resta. Da portare a casa. Che ore sono? Ma è tardissimo. No, sono le 9:34. No, sono le peripezie di Cusella. Le peripazie. Beh, che poi non erano le peripezie, era di questo matto vagante, questa mina vagante che a un certo punto si è assemblato ad altri suoi simili. Continuando a urlare, tra l'altro. Perché ricordiamoci che pure se Montrotondo è un paesino che sulla carta ha circa 45.000 abitanti, c'è una concentrazione di matterelli e mica da ridere. Ecco, questo io l'ho sempre sostenuto, ma nessuno mi è mai venuto incontro. Secondo me la percentuale pro capite dei matti rispetto al numero di abitanti. Tu te sei mai chiesto perché sei finito qua, Pizzi? Infatti. Te fai statistica, attenzione. Sì, io non vado a giro a fare di chi sei figlio tu. Beh, non c'è bisogno di fare, basta fare la radio per dire. No, la radio, sto qua per cazzi mia. Sì, non fa fastidiare nessuno, certo. E comunque poi ti vorrei farti notare che ci siete anche assolutamente, voi, ma io infatti non mi tiro fuori. Tu non lo tiri fuori? Bene, grazie al cielo, non lo tiri un punto fuori. Basta che neanche che non lo tiri dentro. No. Beh, dipende da Gusella, a questo punto tu ci obblighi a fare la classica domanda. No, è meglio un culo caldo in panza o una panza calda in culo? Ripeti Gusella, dai. Ragazzi, il giorno che lo riesci a dire è la fine del mondo, ma proprio in senso biblico, perché ci puoi dai, provaci. È un tentativo. Un culo caldo in panza o una panza calda in culo? Bravo. Chiudete l'internet, basta. Chiudete il mondo che sta per finire. No, vabbè, dai ragazzi. Tu andrai a Milano, a tutti i ragazzi direi, ma meglio una panza calda in culo o un culo caldo in panza? Io farei così, vedrai che rimorchi come la signora, per esempio, no? No, non glielo chiediamo. No. Beh, però se le signorine rispondono in un certo modo... È quello, capisci? È anche brutto. È quello, capisci? Ma no, tu non ti preoccupare. Dipende dal tipo di signorine, perché sono signorine e signorine, insomma, diciamo le così. Signorine. Le signorine. Per esempio, noi oggi era ieri oggi che parlavamo sul canale di Morte di Bestemmie, proprio di questo nuovo trend, di queste ragazze, come dire, così poco erudite in termini di contraccezione, di solidarietà, eccetera, che sono convinte di poter rimanere incinta col sesso orale. Vabbè. Ma no, te l'ho spiegato, non è che loro non lo sanno, loro lo sanno, però è talmente il panico psicologico che c'hanno che gli serve che qualcuno, a parte che secondo me in effetti c'ha ragione Danilo Giardino, era un po' un troll quella, cioè, nel senso, ma la maggior parte, io voglio sperare che la maggior parte di quelle case siano troll, esatto, io parto dal presupposto che 8 su 10 sono scritte apposta per scatenare le reazioni, poi mi sbaglierò per fare i meme. No, forse 8 su 10 no, perché secondo me se tu vai a cercare nei gruppi di gente così ci stanno, cioè. No, perché la cosa grave però è che gli rispondono seriamente, quella è la cosa più grave, capito? Cioè il troll magari dice mi sono messo un dito nell'occhio, ho paura di rimanere cieco. Io continuo a dire che può succedere. Vabbè, spieghiamolo ragazzi, un attimo di che cosa stiamo parlando. Lo spieghiamo nella descrizione degli eventi. Noi che veniamo da una generazione pre-internetiana, anche l'orizzonte, e abbiamo vissuto un'adolescenza, diciamo, e una giovinezza quando ancora l'accesso a tante informazioni non c'erano. Penso che comunque parlando con amiche più meno dell'età dell'adolescenza, tarda adolescenza, abbiamo sentito dire da loro, non perché noi abbiamo esperienze sessuali in merito, no, però abbiamo sentito dire da qualcuna di loro, ah no, perché io faccio solo sesso anale, faccio solo sesso orale per non rimanere incinta, cioè con una discreta consapevolezza del funzionamento base, no? Guarda, dell'apparato c'era la leggenda urbana, la prima volta non rimane incinta. Allora, poi vi racconterò, tanti anni fa esisteva una pagina web che si chiamava Brave, continuate a leggere, cioè, che probabilmente riesco ancora a ritrovare su internet e ve ne farò leggere alcune che il signor distrugge in confronto a un dilettante. Però pensare che oggi ci siano tante ragazze che scrivono in questi gruppi di mamme pancine piuttosto che aspiranti mamme pancine preoccupate perché hanno tradito il ragazzo. Allora, questa è stata bellissima, perché questa ragazza poco dopo aver scoperto di essere incinta, la sua amica è sempre l'amica, pochi giorni dopo aver scoperto di essere incinta ha tradito il fidanzato, ma solo facendo sesso orale con un altro. La sua paura era che tramite il sesso orale questo sperma potesse viaggiare fino all'utero e sostituirsi a quello che l'aveva già messa incinta. Cosa, sì. Cioè, dai, dai, ragazzi, c'è una doppia gabbola, ragazzi. Però guardate, ma io non ci posso gabbola. Credere che ci siano persone. Ma sì, ma che dici? Ah, guarda, ma... ti dico che la mia socia pensava che l'ovulo femminile fosse grosso più o meno, sì, come un sì, uovo, ragazzi, di gallina. Ma forse non vi rendete conto. Uovo, ma come dici anche una nostra ascoltatrice che non diciamo, c'è una ragazza che ha 22 anni e la madre gli faceva ancora il bidet. Cioè, ragazzi, ma di che cazzo stavamo a parlare? Cioè, il mondo purtroppo è ancora composto da queste variegature. Intanto, allora, ragazzi, scusate. Intanto, giustamente ci fa, mi fa ricordare Marco Buzziconi. No, poverino. Allora, scusate, no, no. È Marco Borzacconi, no, scusate. Che, andando veloce, io cerco Borzacconi, che giustamente queste cose, soprattutto se si rimaneva incinta col sesso orale, roba del genere, era pieno, e voi ve lo ricorderete sicuramente perché cioè, avrete avuto amiche che ve lo leggevano, la posta delle riviste femminili, cioè, ma quante... Ragazzi, ho trovato il file che volevo farvi leggere. Ve ne leggerò alcune che sono mitologiche. È una raccolta delle domande, ve lo ricordate, cioè, tanto per cominciare? Mamma mia, sì. Mai letto? Questo allora, praticamente qualcuno tanti anni fa raccolse in un file di testo alcune domande con tutta una serie di risposte epiche dei lettori, cioè. Iniziamo poi magari nel corso della puntata ne leggiamo altre. La prima: ho 12 anni, sono alta 156 cm e ho un seno quasi impercettibile, ma del resto sono ben sviluppata. Mia mamma è più bassa di me, mio padre è circa 172 cm. Quando potranno venirmi le prime mestruazioni? Sicilia 95, perciò è. Beh, perché bisogna fare il calcolo, no? Base per altezza. Aspetta, le risposte. Fratto tette. Le risposte, okay. Le risposte dei lettori. Ah, ma che cos'è? Un gioco a quiz? Oppure Aldo dice: interpella il mago Gabriel, e questa è una citazione per gli eruditi di Mai Dire TV. E Gigi dice: lascio e scelgo il CD d'argento. Ancora, chiama il 166 666, scema. Ancora, le nostre cartomanti saranno lietissime di sciogliere ogni tuo dubbio, riusciranno persino a ritrovare il tuo unico neurone perduto. Una folla le risponde: come possiamo risponderti se non ci dice il codice fiscale di tua zia? Ed infine cavo, il boss le risponde: che cazzo c'entra l'altezza dei tuoi con le tue mestruazioni? Cioè, proprio per dare una risposta quasi tecnica. Eh sì. Però sono dati. Invece, questa è una domanda che pongo. Attenzione, che pongo direttamente a Marco Gualdi. Sì, lo Marco, so. Lo Marco so Gualdi, questa domanda sì. La pone curiosa. Su cioè: che è vero curiosa. Che lo sperma ai ragazzi esce solo di notte? Sì. Eh sì, perché c'ha sì, paura che no, poi è vero, esce solo di notte. Spiazzone, però non tutte brutto. Le notti. Al che Aldo in risposta le chiede: oh, ma è vero che te il cervello lo attacchi solo di giorno? No, rispondo a curiosa: esce solo di notte, ma solo a fine settimana, perché durante... Ah, non nelle notti di luna piena. No, durante il fine settimana, perché durante la settimana lavora, quindi va a dormire presto. Altra, questa Ariettina 85, perciò è: ho provato a mettere un assorbente interno, ma non sono riuscita a farlo entrare. È perché sono vergine o perché non sono normale? Io direi entrambi. Oh, attenzione ragazzi, questa domanda qui è una di quelle epiche, perché a seconda della risposta il senso del mondo può cambiare. Siete pronti? Questa domanda sì, la faccio a tutti. Sì. Sono pronto. È possibile fare l'amore quando si è vergini? No, perché insomma... È una domanda, perché secondo me non è facile rispondere. Prima, cioè, devi diventare non vergine e poi devi fare l'amore, giusto? Esatto. Infatti molti gli hanno risposto: no, devi aspettare, no, devi prima essere sverginato e così via, insomma. Secondo me la risposta è: prima devi metterti l'assorbente interno e poi puoi farlo, perché è tutto collegato, secondo me c'è un senso. Ragazzi, dubbiose chiedono a cioè: io e una mia amica ci siamo sempre chieste. Però lei è un'amica, vedi? No, no, magari no, sono davvero, cioè. No, ti assicuro che è plausibile. Perché si sono sempre chieste, no? Ma le donne primitive ce l'avevano il ciclo? E come facevano senza assorbenti? Guarda, queste sono domande che un giorno risponderà un antropologo. Aspetta, anche qui. Un antropologo. Un antropologo. Disperato, una volta il disperato cibo in casa 85, disperato 85, sempre su cioè si domandava. Sentite, attenzione, io chiedo anche l'aiuto al pubblico qui, chiedo alle ragazze: ma è vero che se il ciclo arriva dopo i 14 anni non si possono avere figli? Ma voi però vi rendete conto, e questo vabbè, mo negli anni 70 e 80, vabbè, ma questi forse erano tutti anche minorenni, 90, esatto, cioè, tutti ragazzi, ragazzini che si raccontano lì le cose, si passava, fra di loro. Lì si passava, per capire, si passava da cicogna a scopare, cioè il mezzo non c'era, c'era, no, una cosa, vabbè, terribile, ma, cioè, quando eravamo ragazzini noi, raga, ma quante ne sentivamo, cioè quante se ne raccontavamo, era tutta leggenda urbana, esatto, tutta, no, ma adesso lì, ma e così, quindi alcuni, no, così, alcuni così alla fine, no, ma come no, ma sì, ma dai, ma cioè voi alla fine, ma molto più rozze, ma non queste, insomma. Tipo, per esempio, è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Sì, sì, come no, certo. Beh, col seno di poi potrebbe... Vabbè, ma c'è la gente ancora che è convinta che se quando sei incinta c'è la panza a punta è un maschio, cioè, vuoi dire... Salve, sono se, una se c'ha la pazza galla in culo, esatto. Noi per esempio ascoltatrici così non ce ne abbiamo, vero? Perché, o magari ce le abbiamo ma non lo sappiamo. Perché c'è Salve, sono una vostra lettrice che da un po' di tempo ha una voglia matta di fare l'amore e ci pensa sempre. È normale? Sì. È normale che sia una nostra lettrice o che... Non lo so, beh. Sì, anche voi da casa, allora, donne, ragazzi, donne, siete donne che volete fare l'amore e ci pensate, fateci pure la domanda. Passiamo a un'altra rivista che era ancora più tecnica, cioè, non so se la ricordate, è uscita per molti meno anni, si chiama Top Girl. Sì, sì, sì, okay, sì, me lo ricordo. Rubrica, sì, sì. Cara dottoressa, ho una curiosità. C'era la dottoressa pure. Una ragazza vergine, qualcuno si domanda, ma parli di te, che fa l'inseminazione artificiale, rimane ancora vergine? No, diventa la Madonna. Aspetta, aspetta. Se sì, quando partorirà, non essendoci stata la rottura dell'imene, il bambino potrà nascere normalmente? No, lui no, rimbalzo. Aspetta, aspetta, no, aspetta, perché le domande continuano. In questo caso c'è il rischio di perdere la verginità? Se sì, vuol dire che è meglio partorire con il cesareo? Vabbè, dai, no, non è che potevo stare tutta la sera a leggere, cioè, del 1985. Peccato, perché ce n'è una quantità. Lo so, immagino, però insomma, alla fine, cioè, c'è sta, 14 anni, dai, c'è sta, sta, sì, sì, no, il problema è 30-34 anni, non c'è sta. Poi c'era un amico mio che mi diceva, no, perché sai che quando noi avevamo 12 anni, no, dice, però Simone, mi devi fare l'amore è una cosa impegnativa, è dolorosissimo, ne vengono i crampi, sentiva la gente che raccontava cose, e tu stai lì e dici, oh, perché poi che cazzo ne sai, no? Cioè, a 12 anni, che cazzo ne sai? Mi devi permettere di leggere non anche da un maschietto, perché sennò è stato veramente sessista. Cara dottoressa, sono un ragazzo di 18 perché anni, perché era più normale che scrivevano le ragazze, e sono molto sorpreso del mio corpo. Ho un pisello. Perché involontariamente il mio organo genitale va in erezione in qualsiasi momento e mi provoca forti disagi. Ho capito. Quello però poteva soffrire di priapismo, che ne sai? A 18 anni posso. Beh, diciamo che qua no, aspetta. Quando no. Ti chiamavano le interrogazioni, ma quando erano le prime volte, quando le prime volte che così arbitrariamente, cioè, vuoi dire, era un po' imbarazzante. Preferivi l'insufficienza. Sì, dai, era imbarazzante a volte, su, cioè, comunque vedo che ha suscitato dibattito in chat tutte queste letture. Per esempio, Marco Borzacconi ci dice, parlando di quella dei funghi, no? Ci dice, fosse se i funghi li avesse assunti il ragazzo, avrebbe visto anche segni che non c'erano. Beh, darsi. Mi sarebbe piaciuto sentire lobby frontali su questo tema, però vabbè, insomma. Vabbè, ma lui ha altro da fare. Tanto poi... Ma chissà se Cagnelle poi ha risolto. Cioè, io non parliamo. Ma parliamo in radio, no, di cose, no, di cui non, vero, non dovremmo. Ma insomma, voglio dire. Ecco, torniamo al tanto, fulcro. Tanto, sì, ma aspetta, ma adesso ho capito una somiglianza. Ma non è che. Lei è No, credo. Oh, aridaie, arigà. Forse non avete capito che. No, vabbè, ma insomma, no, sfido ad arrivarci, cioè, insomma. Ho capito. Ma sì, ma è un nome in codice. Ma sì, il cazzo è un nome in codice. No, il cazzo è il cazzo. Infatti. A meno che non si chiami Giorgio e ti fa soprannominare cazzo. Allora, in quel caso è un nome in codice. Ci dice Pier G che ci stiamo paurosamente avvicinando al futuro del racconto Gli idioti in marcia. Però ammetto la mia ignoranza, non so di che non racconto. Non sappiamo. Spiegacci. Però è qualcosa che ha a che fare con i idiocrasi, probabilmente. Me, c'era, sì, qualche cosa di simile, anche se vabbè, forse magari più dotta, ma è quella. Può essere. Chi è dotta? È dotta. La nana? È adottata. Vabbè, io ho finito gli aneddoti. Ma io comunque Pizzi, raccontaci i tuoi aneddoti. Rimanere lì, io comunque, voi lo sapete, cioè, no, perché quando si parlava da ragazzini si parlava delle prime masturbazioni, no? È capitato, no? Non so se l'ho già raccontato sta probabilmente cosa. L'ha raccontato, non lo so, ma tanto ci fa talmente schifo che lo rimuoviamo ogni volta, esatto, per cui esatto, è come se fosse la prima volta, esatto, è la prima volta. Oh, posso dire una cosa calcistica? Fiorentina-Atalanta 2-2. Si può distrarre un attimo a farsi raccontare le cose di Cioè, che subito vero, c'è la Fiorentina si ingrifa, fa due gol, vabbè. E niente, vabbè, cioè, no, perché tu, io proprio incredibile, fa, dice, no, c'era un amico nostro che si diceva, no, perché quando stavi al mare, no, che insomma, di solito vai in giro in costume, non è che vai in giro che magliette, che camicetta, no? Dice, no, perché si vede del fatto che tu ti sei masturbato dal fatto che hai i capezzoli mosci. E quindi tutti a toccarsi i capezzoli, andavano a vedere, no, non che sei, ma già nessuno è pippe, okay. E facevano, io, ah, ma io una volta, due, tre, poi già faccio troppo stanco. Io pensavo, come due, tre? Io me faccio 15, 16. Perché pensavo che fasse la pippa era fare soltanto trick track. Quindi dicevo, ma poi che cazzo c'è? È bello a fare queste pippe, che non succede niente. Poi un giorno avevo capito, e quindi mi sono messo di impegno. E alla fine, fine. Non hai più smesso, insomma. Esatto, ma i capezzoli, esatto, come erano dopo? Durissimi, torgidi. Vabbè, potete, siamo, cioè, in fascia protetta comunque. Ma quale fascia dopo protetta? Tutto Adrian, non so che cazzo fascia protetta. Poi mi fa ridere perché, come se, capito, loro non si sono mai fatto le pippe, capito? Cioè, allora, no, però ci sono i bambini che ci ascoltano. Gusella, racconta. Guarda, c'è un Gusella che ci ascolta. Racconta la tua prima pippa. Ragazzi, Gusella è borderline, al limite della minore età, attenzione. Ma mi ricordo che era tutto buio, ero in mezzo a dell'acqua, sentivo dei suoni. Molto tempo fa. Certo. Ma una cosa inquietante. E si toccava perché si annoiava. Esatto. Che palle. Tiravo i calci e non nessuno mi ascoltava. E allora si masturbava. D'altra parte, uno per passare il tempo qualcosa deve pur fare. La televisione non si prende Non esisteva. Dice che ha ispirato il film moderno. Idiocracy, infatti, okay, vedi, si era, okay, capito. Poi spoiler, praticamente questi venivano spediti nello spazio. Sentite ragazzi, ma vogliamo parlare della notte degli Oscar? No, io non l'ho vista, no, la notte degli Oscar. No, però sapete chi ha vinto cosa? No. Più o meno. Io non so cos'è un Oscar. So che ha vinto Green Book, che ho visto e mi è piaciuto molto. Però insomma, le 50.000 nomination di Tiger Man là, no? Black Panther. No, Black Panther ha vinto solo degli Oscar. Sì, però c'ha avuto un sacco di nomination. Sì, cioè, però poi alla fine, come al solito, è valsa la tipica regola di Hollywood. Diciamo, hanno vinto i film confezionati appositamente per vincere l'Oscar. Non c'è stata una rottura del sistema da questo punto di vista. Un po' come le canzoni di Sanremo che sono fatte apposta. Tutto manipolato. È vero, è vero. Comunque, insomma, per carità, sicuramente un bel film. Io non l'ho visto ancora Green Book, però sicuramente un bel film. Magari avrebbe potuto vincere qualcosa in più anche Roma di Alfonso Cuarón. Ha vinto molti Oscar anche in questo caso tecnici, Bohemian Rhapsody perché Rami Malek, l'interprete di Freddie Mercury, ha vinto l'Oscar come miglior attore. Beh, protagonista. Non so proprio tecnici. No, la maggior parte sono stati tecnici, però per esempio miglior montaggio sonoro, miglior fotografia, miglior colonna sonora. Mi sembra, insomma, miglior colonna sonora originale, no, perché la miglior colonna sonora l'ha vinto Black Panther. Brano originale l'ha vinto Lady Gaga per Swallow di Radio Gaga. Film. Cioè Black Panther ha vinto miglior colonna sonora. Cassa. Capito come stavamo messi? Cioè. No, beh, probabilmente era una bella colonna sonora. Io neanche me la però ricordo. Poi, però poi il problema. Io ho visto Black Panther, ma non me lo ricordo proprio la colonna sonora. Io penso che cose tribali, no? Esatto. No, sì, non me la ricordo proprio. No, io non ho visto. Ho visto Black Panther, devo dire, uno dei pochi che mi mancano il continuum nell'MCU, perché sì, l'ho visto, ma tra l'altro secondo me è un film medio, insomma, c'è Michonne però in compenso. Invece sì, sapete che stanno blastando sotto vari punti di vista Capitan Marvel? Su Rotten Tomatoes sì, hanno vietato i commenti. Perché c'è stata una piccola incomprensione. Perché l'attrice, mi sono perso, praticamente ha chiesto di essere, quando l'ha intervistato, ha fatto una cosa un po' sessista al contrario, cioè un po' femminista, in cui ha chiesto di farsi fare intervista a donne, che ci fossero anche molti più afroamericani, perché secondo lei c'è un po' di discriminazione. La gente si è incazzata, ha detto, questo sessismo maledetta, e hanno cominciato a bombardare Rotten Tomatoes di brutte critiche, anche senza gente che non ha visto il film. Del resto ricordiamoci che il sessismo non deve essere per forza in una direzione, potrebbe essere, non ci sarebbe niente di strano a vederlo anche nell'altra a quel punto. Però forse è un po' esagerato, insomma, questa cosa. Però d'altronde adesso il mondo è pieno di bimbi minchia che poi crescono e diventano adulti minchia. Sì, purtroppo il guai è proprio questo, che li fanno continuare a crescere. Alcuni diventano ministri. Alcuni votano, altri diventano ministri. Quello è il problema. Mamma mia. Vabbè, comunque, insomma. Vabbè, comunque io Green Book l'ho visto. Devo dire che mi è piaciuto. Sono contento che ha vinto. Invece, se vogliamo rimanere un po' nelle produzioni di casa nostra, io ho fatto un beach watching di Suburra 2. Suburra. Hai fatto? Un beach watching. Mi sono visto tutti gli 8 episodi di Suburra 2 in un giorno e mezzo, praticamente. Bravo. E mi continuo a domandare come facciano gli stessi produttori di serie di altissimo livello, come sono state Romanzo Criminale e com'è tuttora Gomorra, che è la quarta stagione che uscirà a breve, a non metterci la, diciamo, tecnicamente Suburra a, come posso, lo colloco? Non so, però parole due, un paio di gradini, no, ci sto arrivando, un paio di gradini in basso, perché seppur tecnicamente sia fatto con gli stessi canoni, ha delle cadute di stile clamorose, soprattutto sui dialoghi. Sembrano veramente gli sceneggiatori degli occhi del cuore certe volte ad aver scritto i dialoghi tra i personaggi. No, vabbè, niente, ci vuole pure quello. Complici anche attori appallati, perché per esempio a Leggerini proprio non gli va, ad altri attori del cast non gli va più di tanto, e quindi fondamentalmente il prodotto finito non è all'altezza. Però in certi momenti ti cascano le braccia, ragazzi. Peccato, perché dovrebbe essere il prodotto di punta attuale di Netflix per il mercato interno italiano, perché Netflix per ora non è che ha fatto tutte queste produzioni per l'Italia, ne ha fatte 4-5 tra film e serie, e Suburra dovrebbe essere... È difficile fare delle cose di serie, però ha fatto Baby, Baby. Che tanto esce Baby 2. Esce Baby. Io non ho visto manco l'uno, ma sto bene così, insomma, voglio dire. Gusella l'ha visto, Gusella parla, ce n'è. È piacciucchiato. Beh, dai, di qualcosa di più. Per queste fighe per me va bene. Spieghiamo che la serie Baby riprende la storia di queste baby prostitute dei Parioli, che erano ragazzine adolescenti o tardo adolescenti, comunque minorenni, che per congrue somme di denaro si andavano a prostituire con personaggi, diciamo, della borghesia pariolina romana. Per chi non lo sapesse, a Roma il quartiere Parioli è il quartiere, diciamo, quello un po' più frequentato da ricchi. Quello un po' più parolino. C'hai sordi. E da chi c'hai sordi, esatto. E quindi andavano lì, si pagavano gli studi, le università. Chi ti paga? Di queste belle gnocche. Gusella, erano minorenni anche, cioè erano illegali anche per te, te lo voglio ricordare. Vabbè, che tu però erano gnocche uguale, non è che però, l'apprezzamento non è mai illegale. Mica ti ho messo una mano al culo. Magari. Neanche una panza calda, esatto. Soprattutto una panza calda. No, infatti. Boh, a me sì, non è proprio una bomba, però a me è piaciuto. Bomba! Dove, come, vabbè, chi? Maledetti! Si è messa paura la signora quando ha detto bomba pizza. Si era addormentata, hai detto bomba. Vabbè, scusa signor, scusa. Bomba, sbombami. Torna a dormire, bombami. No, non gli dico così che te prende in parola. Hai visto che è poi quella? Non gli pare vero la signora. Vabbè, quindi non ti è piaciuto, ma Pizzi, hai per caso cliccato sul mouse? Non ce ne eravamo accorti. Sì, ho messo la cover nell'episodio di Videoludica che uscirà sabato alle 6. Che interessa a tutti, gente veramente interessata. Bello. Che sì, culo, ecco, esatto, che culo è la parola giusta, bravo. Grande cover. Ringraziamo per questo Alex Raccuglia. Fate la puntata sui giochi porni e non mi avete chiamato? No. Quella però è la cover del lato B del nastro. Esatto. No, vabbè, ma non fa. Che è questa cosa pacchiana, questa battuta pacchiana. Pacchiana. Poi dopo vedi che il brainstorming. Vedi che sì, l'influenza di Gusella si comincia a far sentire un po' in tutti. Siamo interconnessi. Ragazzi, ma a proposito di influenza, lo sapete che al pronto soccorso di Maria Pina ha detto: io l'ho visto. Cosa? Tutto. Lei l'ha visto tutto. Danilo, siamo contenti che l'ha visto, ti sei impegnato. Buburra, hai visto Buburra? Buburra. No, volevo raccontare che al pronto soccorso, anzi nel reparto di medicina generale del nostro premiatissimo ospedale di zona, c'è stata la scabbia, ragazzi, ma vi rendete conto? La scabbia in la che scabbia senso? Metà, la scabbia, la malattia? Sì. Ah, non Cristina Scabbia, che no, peccato. Magari. La scabbia... donna, una che si chiama Cristina Scabbia, è una gran figa comunque, cioè, sappilo. Capito. Vabbè, però la mia figa. Vabbè, vi potrei dire che avevo una collega che porella di nome di battesimo faceva Candida. Non so. È un nome come vabbè, quello Candida viene più da Candida che Candida è riferimento... La malattia si chiama Candida perché Candida. Prima viene Candida, poi viene Candida. Bravo, esatto. Sì, vabbè, ho capito, ma no. Adesso che va bene, giusto. Comunque, no, vabbè, cioè. Mi sono alluppato, insomma. Dai, Maria Pia, giusta Maria Pina, ci dice giustamente Maria Simone, Pino! Raccontaci. No, no, non ci racconta della borra. Quindi lo hai visto, no. Ma non nel suo apice. Ma c'è la borra in sobborra. Ma no, questo è un po' deludente. Intanto Pizzi maneggia carte di credito come fosse un pariolino, ma che ve lo dica fa. Anzi, ci sto giocando. Certo. Ci stai tagliando la cocaina. Che esatto. Lì. Ci sta preparando le Pablo strisce. Escobar ti fa esatto, proprio. Perché ci facciamo qualche botta dopo la puntata. Sì, no, sì. Probabilmente se la dovremmo ce la dovremmo fa prima. Però, esatto. L'altro giorno ho visto uno che. Io ho detto che se qualcuno metteva un brano musicale. Per esempio, io metto un brano musicale adesso. Però così, mentre lo scegli, volevo chiedere a Michela De Paola che dice: menategli, ma a chi? A tutti, menategli a tutti. Ce lo dici dopo. Scusa, durante, Pizzi, durante solo la un secondo, pausa. Ma vai, tu vai, aderisci, vai. Aderisci su, scusa, ma culo tu, la lompanza. Tu aderisci subito a questa cosa di mettere una canzone italiana in tre? No, assolutamente. Non c'è... Bravo, bravo, esatto, non c'è niente. Adesso ci ascoltiamo questo brano, così noi andiamo a prendere la birra. Quanto power in una sola canzone, ragazzi, e rientriamo, ma avremmo dovuto rientrare Pizzi. In un modo diverso, esatto. Sì, piano. Perché oggi vogliamo ricordarvi che è la giornata mondiale della lentezza. Oggi è la giornata dei Pokémon. Ma oggi non era anche la giornata sulla consapevolezza dell'autismo? Oggi è la giornata mondiale delle giornate mondiali. Ragazzi, io però, scusate, è più forte di me, voi lo sapete, poi con certe allusioni, con certi giochi io non posso far cadere nel vuoto questa cosa, perché prima si parlava di certe cose e la nostra ascoltatrice Maria Pina ci dice... E parlando del fatto che lei lo ha visto, dice: è carino, ma niente di che, poteva essere molto meglio. E Danilo, ci sei in ascolto, Danilo? Sì, Danilo sta giocando con il retrocosi. Con il coso retrocoso. Attenzione. Okay, ma che sei? Questo è mio? Sbembe. Noi intanto beviamo. Sì, piano. Alla vostra salute. Piano che ti va di traverso. Bere piano. Io invece vi voglio raccontare visto che praticamente fra qualche giorno mi faccio un altri 2, 3, 4 giorni in ospedale per sempre una fissione obsoleta, insomma. E praticamente per entrare lì poi loro devono fare un certo tipo di terapia epidermica e quindi le Bones McCoy ti fanno cosa? Le Bones McCoy, facciamoci un brindisi, sì. Intanto facciamo un alla giornata, alla vostra giornata, al mixer. La giornata della lentezza, piano. La giornata della lentezza piano. E niente, praticamente io quindi mi devo tagliare barba e capelli. No, allora questa mattina, dato che hanno aperto, cioè ho detto: perché spendere troppi soldi per una cosa che potrei fare da solo a casa mia? Cioè, nel spendiamo senso, la via di mezzo. Spendiamo tipo con la falciatrice. 10 euro vai da Alibaba. Che no, ma che 10 euro? 5 euro. No, però vabbè, lì quello è 5 euro la barba e 5 euro i capelli. Quindi sono 10. Che inculato. Ma secondo me ti fa pagare 7,50. Cioè, così a occhio, c'è sta, dai. Tu dici che fa un forfettario. Ma sì, così. Fa un forfettario. Può essere, può essere. Vabbè, comunque. Insomma, ce la promo per il menù completo. Se può fa, no? Se può fa sta cosa, no? Perché poi alla fine. Ma completo con happy ending? Speriamo di no, speriamo di no, perché se no diventa la balba romantica, che è diverso, insomma, un po'. E poi non è cinese questo. Comunque, io sospetto che da quello che sta succedendo, sospetto sia indiano. Però, perché sono razzista, diciamo. No, ma perché praticamente, vabbè, vado da questo, allora, perché un secondo, Alibaba dice che. Secondo euro. Io so che è da almeno lunedì che devi andarti a tagliare la barba. Esatto. Quindi è successo da lunedì a oggi. Allora, che lunedì sono chiusi e un po' pigrizia. Ma io passo. Questo non lo so. Passo la mattina e vado a far colazione con i miei amici Sbarro e Gualdi. Aspetta, spieghiamo che in prossimità del, diciamo, del nostro centro nevralgico ha aperto da poche settimane questa nuova sala di barbieri che si chiama Ali e Babà. Ha detto Danilo che sente tutto, però parla come se fosse Maria Pina, non so per quale ragione. Però sente tutto, che è un'altra metafora da spiegarci, però vabbè. Quindi insomma, questo sala da barba, che già perché si chiama Ali e Babà, io per non sapere leggere e scrivere. Poi vabbè, come dico sempre, io i capelli me li faccio sotto la doccia, quello so io. Papà, quindi... e non fai neanche pasticceria. Vabbè, ma si chiama Alibaba perché Alibaba. Perché? Perché? Non lo sappiamo. Comunque, vabbè, sono andato lì alle 9, era chiuso. E vabbè, allora dice che è facile tornare alle 10. Vabbè, dice magari è alle 10. Era chiuso, sempre chiuso. Io continuavo un po' a traccheggiare. Dico, sono arrivato fine alle 10:30. Non è che posso stare tutta la giornata alle chiuso. A quel punto mi è venuto un po' il dubbio. Dico, ma secondo me questo non apre. Faccio a Gualdi, Gualdi, ma insomma, dice, no, ma questi non è che non aprono. Aprono, però aprono con calma. Quando cazzo dicono loro? Esatto. Poi dopo, quando hanno aperto, rimangono aperti. Mi pare un mio amico che c'ha una fumetteria senza far nomi. E praticamente niente, insomma, a un certo punto io, vabbè, ciao, adesso io me ne vado a casa. Adesso le 11:30 scrivo a Gualdi perché dico, sai che c'è, quasi quasi ci arrivato, cioè nel senso, se metti tanto ormai avrà aperto. Scusa Gualdi, dato che devi solo affacciare e vedessi aperto, puoi vedere alle 11:30 se è aperto, e ancora non era aperto. No. Poi no, però no, alla fine sta cosa è un po' decaduta perché vabbè, poi abbiamo preparato il pranzo, abbiamo pranzato tutto quanto, no? Poi mi è passato di mente perché nel pomeriggio ho avuto altre cose da fare. A un certo punto, verso tipo le 5:30, mi è venuto in mente. No, no, erano le sette. Ho detto, ma raga, ma poi alla fine questo è aperto o no? No, non è aperto. No, sì, hai detto che è aperto. Sì, sì, no, alla fine era aperto. Quindi vuol dire che c'è il posto. Sì. Diciamo che devi capire a che ora riuscire. Aprono di pomeriggio, diciamo, perché o di tarda mattina. Con calma, cioè oggi è la giornata della lentezza. Oggi poi, cioè, poi sì, oggi secondo me l'hanno proprio festeggiata. Andiamo ad aprire. Faccio barba e capelli. Barba, poi ripeto, capelli. È strano questo però questa sovrapposizione di orari, perché secondo me la macchinetta per tagliare i capelli verso le 7 di sera serve in pizzeria per i kebab. Ah, può essere, può essere. Però tu con questa facile battuta razzista, chiaramente. Ah, sessista anche. E sessista. Così. Fai comunque presupporre che siano arabi. Ma io invece volevo chiedere se il kebab è maschio o femmina. Secondo me è neutro. Sì, gender free, sì, perché il gender non è lineare, ricordiamocelo. È fluido. Maledetti! No, il kebab non è neutro. Danilo ci fa sapere, comunque è vero che stavo armeggiando con le retro cose, stavo aggiornando alcuni emulatori su Retropie, che non so cosa sia. Retropie, giusto, no? Ok, giusto, è vero. Comunque, le retropie, che è un po' come l'entropia, però. Ma insomma, quindi dietro, praticamente questi qua non... Scusa, Maria Pina vuole sapere l'etimologia della frase chiavi in mano. La pippa, Maria Pina. Cioè, è quella. Oppure se hai una mano molto grande puoi anche accogliere, diciamo, qualcos'altro. No, vabbè, però non c'è. Michela De Pala che ci dà questa cosa di questa, come dire, questa interpretazione alla Piero Angela, che ci dice: nell'edilizia l'espressione chiavi in mano sta a significare che l'imprenditore, l'appaltatore, si impegna nei confronti del cliente, il committente, a fornire tutte le prestazioni necessarie affinché l'opera sia ultimata, completata e pronta per l'uso e o suo esercizio. Come le zoccole. Michela Pippa, stiamo parlando di Pippa qua. La Pippa, Wikipedia, no? Su Wikipedia, fatto un Wikipedia. E comunque, tra l'altro, il giorno mondiale della lentezza, giustamente, ma Michela ci dice: allora è la mia giornata, e posso confermare che è la sua giornata. Ma per tutto l'anno è la sua giornata. Io mi ricordo, perché limitarsi ad un solo giorno quando ce n'era l'altra 364? C'è stata una volta che facevamo un podcast live al Blue Pub. Insomma, Gualdi se lo ricorderà sicuramente. Parliamo di molti anni fa, dove andavamo al Blue Pub con tanto dei Macintosh, col mixer, con tutto quanto, e se mettiamo la... Poi però c'era una volta che non so per quale ragione praticamente la frequenza di campionamento del mixer non era compatibile col Mac o roba del genere, e insomma alla fine quando tu ti sentivi il tuo ritorno in cuffia veniva rallentato. Veniva un po' rallentato, esatto. E quando toccava a Michela non riusciva a uscire da sto loop, perché sentiva, si ascoltava, sentiva se stessa rallentata e rallentava anche lei, e quindi diventava praticamente una tipo praticamente come entrare nell'orizzonte degli eventi di un buco nero. Esatto. Scusate, qui dobbiamo fare un macello. Dobbiamo telefonare a Jeff Bezos in persona ed incazzarci. Bezos. Perché dice Danilo che Alexa non gli permette di ascoltare Runtime. No, abbiamo provato, non lo fare neanche io. Abbiamo provato a fare Gusella ha provato a fare la skill, ma proprio non ci sono stati cazzi su sta cosa. Non... Vabbè, ragazzi, ma Alexa è un nome, una garanzia. No, ne parlava oggi Walter Vannini nel suo podcast. Aspetta, ti mando il link magico. Vabbè ragazzi, comunque insomma. Vabbè, niente, quindi sta barba non te la farai più. No, domani ci provo. Domani mandami un messaggio, chiedimi se è aperto. Perché sì, sai che. Esatto, mi mando il messaggio e poi. Perché questo, facciamo un po' di pubblicità, perché questo poraccio c'ha bisogno. Allora, questo qui tiene famiglia, tiene 48 bambini, quindi deve assolutamente sfamarli. Aprisse, cioè uno ragazzi, non può badare a 48 bambini e fare la barba contemporaneamente, certo. Quindi deve mandare a scuola la mattina uno per uno, li accompagni uno per uno e apre verso 11:30. Ma Pizzi, in tutto questo, no? Tu che giorno dovresti entrare in Il 5. Beh, allora, tu quando entri? Allora, visto che è richiesto il fatto che ci sia, diciamo, il pelo corto, forse ti conviene andarci il 3 o il 4 a farti la barba, perché sennò al frattempo ti ricresce pure. Ci hai pensato, eh? No, ci avevo anche pensato, però in realtà prima faccio con la macchinetta, solo la macchinetta, e poi prima di entrare faccio proprio con la lametta, capito? Quindi è tutta la strategia. Oh, è arrivato e ci saluta con Hola Valeriano Cocco. E chi sei? Chi sei? Cioè, chi non ti ha mai consigliato? E soprattutto, chi te l'ha fatto fare? Esatto. Però ciao, benvenuto. Non so come ci hai trovato. Sicuramente con il tag Tette, che sta, insomma, sulla Tette funziona sulla trasmissione, sempre, ragazzi. Funziona sempre, insomma, e ti assicuro che molti di noi ce le hanno pure. Cioè, solo che teniamo celate. Io ce l'ho una bella seconda, insomma. Anche Gusella un pochino. Gusella è venuto seconda onesta, come è venuto no, perché lui dice sono dimagrito. Infatti è scarno, È dimagrito, c'ha il collo che Pizzi, è diventato il doppio. Però fatti un attimo, tu secondo me ti sei masturbato da poco. Io sì, vedi, c'ho il capezzolo impertinente, sì, esatto. Ma in realtà mi sto ancora masturbando, so qua. Che schifo. Mentre ascolta la sua voce, ascolta la sua voce, si masturba, come piace ascoltare. Vecchi ricordi, scusate, silenzio un attimo. Mi piace ascoltare la mia voce. Così, era giusto per fare una cosa estemporanea. E poi ricordando anche che oggi è la giornata della lentezza. Scusa, dice Valeriano Cocco, io napri. Però non so cosa vuol, non so se sta dicendo qualcosa che io non capisco. Se gli è partito il messaggio prima del tempo. Poi. Io napri. Secondo me è un messaggio. Forse è una prima. Ah, lui c'ha una prima. Una prima. C'è sempre la prima volta e ricordate che la prima volta è quella che fa più male, quella che fa no, più che male. Dipende, insomma, no. Cioè, nel senso, per un motivo o per un altro, sicuramente è quella che non si scorda mai, insomma. Ma adesso però, Gusella, ora ti faccio una domanda tecnica. Tu che sei un fabbricatore di liquori, col bicchiere sporco di birra, come faccio a bere il limoncello? Ce lo versi dentro e poi lo bevi. Tecnicamente è vero. Che schifo, guarda, quanta approssimazione, ma che delusione proprio, cioè. Ma niente, Valerio Cocco continua a scrivere a monosillabe. È il pezzo mancante di quello. Io una prima. Ah, lui c'ha la prima. Ah, come tette. Ah, vedi. Però non ti sembra. Introduciti, insomma, dici chi sei. Introduciti perché nelle tette altrui. Esatto. Soprattutto tra le tette altrui. Soprattutto quello che perché sta facendo. Una protesi. Lobby frontali, che sappiamo che in questo momento dice che sta farmando. Esatto. Va bene. Sta farmato. E niente, ragazzi, stasera abbiamo un altro quarto d'ora da. Ci possiamo. No, posso parlare di. Prima di andare a parlare di quell'argomento lì, che ancora ci manca un pochino, perché dobbiamo proprio fare in modo che la gente sia depressa per parlare di quell'argomento lì. Ma poi veramente stavolta c'è niente di cui parlare. No, vabbè, cioè. Però due cazzate possiamo dire. Allora, praticamente. Non frega un cazzo a nessuno. Io ho finito di vedere Titans finalmente. È arrivato Dante Gatti. Bella. Io dicevo, ho finito di vedere Titans, quindi ne possiamo parlare allegramente. Senza spoiler. Ma l'hai visto solo te, è difficile parlarne, cioè ne puoi parlare non tu. Posso parlare io, quindi vi racconto il tutte problema le puntate. È sempre quello, esatto. Cioè, se il riassunto di un film di due ore dura no, una non mezza, vi faccio non vi faccio. Di una serie di 10 episodi. Non vi allora, faccio. Allora abbiamo capito, scusate, fermi. Ve lo racconto tutto proprio. Abbiamo capito per quale ragione Amazon rifiuta la skill di runtime fatta da Gusella, perché giustamente, come tipo beta tester, Danilo Giardino dice lui l'ha fatta. Io l'ho fatta partire e gli ho detto voglio ascoltare Runtime e quella gli dice sì, ma quale trasmissione vuoi ascoltare? E da lì in poi non capisce un cazzo. Ma non dovrebbe chiedere vuoi ascoltare Runtime Radio? C'è qualcosa che non cosa? Tu devi dire Alexa, apri Runtime Radio. E vabbè, e quello gli dice parte sì. Tutta il cazzino, che cosa vuoi ascoltare? Benvenuti e tu gli dici radio. Morti di bestemmie. Sì, morti di bestemmie, fine. Non ti deve chiedere conferme. E allora è rotta. È rotta. L'hai distrutta. Ma non è che c'è un altro podcast che si chiama Runtime e quindi lei riconosce quello? o un altro contenuto. Runtime non è una parola così strana, soprattutto magari per un podcast americano, eh? Beh, ma se ti dice vuoi ascoltare Runtime Radio, quelle, è lei. Ma no, ma poi cioè, è sulla skill. La skill si chiama Runtime Radio. Quindi quando tu dici attiva Runtime Radio, quello attiva la skill. Ma tu non lo sai se c'è un'altra skill che si chiama solo Runtime? Mica sai cosa fanno gli altri. Sì che lo so, non c'è sta. Ma sulla ricerca delle skill non c'è sta. Eh no, non c'è perché è in beta. Beta, no, ma non, in generale, non in solo generale. Non ci sta quella, ma non ci stanno altre skill che si chiamano Runtime. Quindi non dovrebbe esserci problemi. Su quello sono sicuro perché la sono andata a cercare e infatti non ho trovato né la nostra né la loro, insomma. Ma poi sono cose molto, molto, molto, molto interessanti. Molto, cioè, molto. Devi attivare qualcosa. Vabbè, tipo ragazzi, devi attivare la skill, dice, tipo devi attivare qualcosa. So, l'hai attivata la skill. Ma Danilo, se non sei capace a fare le cose, vorrei ricordare che Davide Gatti sul RetroPie l'avrebbe già fatta partire. Davide Gatti ha dovuto soltanto ricompilare il codice sorgente in chiave HTTPSMS e lui ci è riuscito senza problemi. È arrivato Nio che l'ha letto, ci ha pensato lui, allungando la mano dicendo: signora, che ne pensi di tutti questi in chat? Insomma, vabbè, alla fine sono problemi che io si è stata addormentata la signora, invece no, sempre attiva, sta lì che scalpita, vuole esprimere le sue considerazioni, esatto, sulla politica. Stava lei facendo una pippa e lei odia tutto. Lei odia tutto e... è a causa delle pasticchine che le abbiamo date prima. Si è rilassata, esatto, e si stava addormentando. Allora beviamo questo. Allora, bravo, io nel frattempo vi posso raccontare dare la mia impressione su cosa? Su Titans, ma che sto cercando. Ma come? Titans, l'ho visto apposta per raccontarvelo. Abbiamo scoperto una cosa sconvolgente, che Holly e Benji in Francia c'aveva la stessa canzone della sigla che noi c'avevamo con Lupin, e questa cosa ci ha turbato l'anima. Mm-mm. Ridisegna tutta la storia, riscrive tutto. Allora ragazzi, io la sigla Holly nel mio forziere ho una serie di Holly e Benji, di versioni di prova di sigle di cartoni animati che devo ricercare. Cosa chiudi? E queste sigle praticamente sono le musiche che noi ricordiamo di alcuni cartoni animati, ma con dei testi diversi perché erano state proposte per altri cartoni animati e poi non scelte. E ve le devo portare, vi stupirete. Va bene, vai Gualdi. Ma senti che aroma di limone qua. Vabbè, limoncello, se sapevo delle altre cose era brutto. Tieni, riempimi pure un po' questo. Comunque ho visto Riempimi qui su un pochino. Ho visto Gualdi, questa serie DC. Allora, innanzitutto, scusa Marco, sì, la Democrazia Cristiana. Bevi tutto, devo capire se mi posso fidare di te. Bevi. Vabbè, basta questi effetti sonori. Se no ci facciamo il canale YouTube. Ma poi posso capire una cosa? Perché fa sempre effetto il citofono? Perché lui quello conosce. Il citofono è bellissimo. Che ormai è diventato un mantra pure quello. Quindi è il nostro marchio di fabbrica di quest'anno. Titans della DC. Allora, innanzitutto è una Democrazia Cristiana. Esatto, è una serie tratta da un fumetto. Non va aspettare miracoli. Ok, perfetto. No, non ce li siamo proprio aspettati. Ma proprio, considerando che no, è una original Netflix, giusto? Oddio, credo di sì. Titans, sì, mi sa di no. In collaborazione con Warner, ma credo sia un original. Vabbè, comunque, in ogni caso, non vi aspettate miracoli. È purtroppo, diciamo, figlio comunque del fumetto, per cui c'è i pregi e i difetti. Rispetto, però, magari a Flash o Arrow, o sta roba qua. È girata, diciamo, con un po' più di malizia. Neanche malizia, ma, no, con un po' malizia. Più di avarizia. Arguzia. Professionalità. Addirittura. Diciamo, perché comunque queste parole così abusate. È un telefilm che ha tempi non serrati, ultra veloci, come ci ha abituato Netflix, insomma. Voglio dire, stiamo parlando di DC, Flash, c'è presente Flash, Arrow, che dopo un po' due palle, insomma, è così. Ma Arrow, madonna. Anche ragazzi, non dopo un po', anche subito. Ah, no, a me la prima stagione ho detto quasi, mi guardo pure la seconda. No, Arrow forse sì, ma tutti gli altri. No, ma pure Arrow, cioè, ma poi è questa cosa che ci vogliamo bene, però ci odiamo, ma ci vogliamo bene. Tu mi hai nascosto le cose. E poi, cioè, voglio dire, ma sta cosa che una volta i personaggi erano segreti, no, non vedono l'ora di dirlo a tutti. Anche in questa, guarda, in questa serie non si mettono più le mutande sui pantaloni, i supereroi si sono emancipati. Ma secondo me erano le mutande sui pantaloni che nascondevano l'identità. Io mi sarei vergognato di ammettere che mi metto le mutande. Ma non avete capito, raga, il trucco è che con le mutande sui pantaloni tutti ti guardano le mutande sui pantaloni e non ti guardano in faccia, quindi che cazzo è questo, viste le mutande? È un po' come quando Gualdi esce dall'ufficio che tu vedi che è vestito da Clark Kent, poi si mette, poi diventa, esce poi da diventa casa me. E diventa Fonzi, quindi diventa, cioè, non ti aspetteresti mai. Comunque praticamente è questa serie dove il giovane Dick Grayson, che sta più o meno sulla trentina, si è rotto il cazzo del Batman. Ricordiamoci che è Robin. Esatto, si è rotto il cazzo del Batman, ha detto al Batman mi ha rotti i coglioni. Allora, sempre per quel fatto della palza calda in culo, secondo me. Quello può darsi. Allora, nel telefilm, però, diciamo che secondo me il motivo reale è quello. Però nel telefilm raccontano praticamente il fatto che Dick Grayson sta diventando sempre più cupo, sempre più buttato verso il buio e la notte che contraddistingue Batman. Che Batman non diciamo è che Batman sia proprio come fosse di uno solare. Tu, allora, tu immaginati 13 anni con Batman. Cioè 13 anni da ragazzino davanti fino a Batman. Davanti a Batman, che è brutto essere davanti a Batman. Sì. Immagina 13 anni. Oh, zittite ste chat. In cui ragazzi, vieni, cavolo. In cui vieni addestrato sì da Batman, ma con uno che praticamente non te parla, è sempre cupo, è sempre, cioè lui si è rotto il cazzo e stava diventando sempre più anche lui violento e diciamo tenebroso tra virgolette, e aveva smesso completamente i panni di Robin fino a che lo ritroviamo appunto a Chicago, quindi in un'altra città. Chicago e no, aspetta, non mi torna qualcosa. Esatto. È tipico dei fumetti Marvel, dei fumetti DC, a differenza di quelli Marvel, di ambientare le storie in città ipotetiche, inventate. Non tutte. Metropolis. Però in alcuni casi Gotham City, eccetera. Ci sono Gotham City, però lui sta a Chicago perché io voglio mettere chilometri di distanza da Batman. E quindi vado in una città vera. Ma è una città vera. Potevo andare a Star City. No, è una città vera, quindi è lontanissima. Capital City, ragazzi, Capital City. È una città vera, per cui è lontanissima da Gotham City. Capiton. E in due anni è diventato già detective della polizia, e qui è una cazzata. Ma chi? Dick Grayson, di che cazzo stava a parlare? Chi è Dick Grayson? Dick Grayson, Robin, Cristo, stava a parlare di Robin. Ma chi riconosce? Fiorentina 2, Atalanta 3. Mamma mia, la Taranta. Andiamo a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. E praticamente dopo due anni che lui ha smesso i panni di Robin, però si è portato via Paragulus chiaramente il completino. Perché non è scemo, insomma, potrebbe servire con i vari gadget, perché potrebbe servire. Certo. Riutilizza la maschera di Robin per un perculo a uno che a una che ha pagato. No, a uno che praticamente picchiava i figli. Ma gli rompe il culo pesantemente a lui e tutti quelli che gli sono attorno. Che cosa succede? Che lui viene a incontrare una ragazza, che è questa Raven, che è un altro membro dei Titans. Sempre nomi così sobri, Raven. Si chiama Raven, questa, cioè, in realtà si chiama in un altro modo che non ricordo, ma il soprannome d'arte è Raven. Cornacchia. Facebook mi chiede di aggiungere un numero telefonico aziendale a videoludica.it. Non lo fare. Metti 666 899 5 e per le prime tre chiamate. E dopodiché praticamente tornando sempre a questo, che non finirò mai, mi fate continuamente perdere. Io ve lo dico, ma vale per il tempo. Ma è quello il bello, è quello, esatto. Il bello, è la corsa a ostacoli. Non è che i tuoi riassunti sono così snelli. Già è facile ricordarsi tutto quello che bisogna dire. No, anche perché è proprio una merda, già è una merda assolutamente. Okay. No, in realtà non è una merda, attenzione. Attenzione, è una merda, attenzione. Perché io gli do come voto 6-6.5, quindi non è lo salvo. Vabbè, perché ti piace, a te piace sta roba. Però è fatta bene, cioè non è... No, io mi aspettavo tanto Matinè. Vuoi rivedere? Ripetimi il voto. Non è merda che caga merda. Esatto, è merda che caga merda. Guarda, questo ci riporta alla vita. Però è diciamo una diversa angolazione della situazione. Cioè, c'è Dick Grayson, non Robin, che ha detto: io mi sono rotto il cazzo. Io mi sono rotto il cazzo di far Robin. Mi sono rotto il cazzo del personaggio. Lui ogni volta che mette la maschera diventa una macchina da guerra. Cioè, spietato. E comunque c'è questo conflitto con lui, che non riesce più a fare Dick Grayson, cioè ad essere una persona normale, perché lui comunque ha avuto un addestramento, ha comunque delle abilità che ha sviluppato e che in qualche modo usa, e non, però non riesce a utilizzare la stessa la maschera perché gli ricorda qualcosa che non vuole essere, e quindi c'è un rifiuto del, comunque, del personaggio di Robin. Ma poi ricordiamoci che non solo noi, ma c'è anche poi questa profonda storia d'amore. Ma che importa, perché c'è la storia d'amore, no? Di Bruce Wayne con il culo di Robin. Non viene raccontata ufficialmente l'odio, rancore verso l'odio e il risentimento. Esatto, perché? Esatto. Perché tu, se gli chiedi a Robin se gli piace un culo gallonpanza, una Robin frontali, secondo me Robin, però diciamo che nel telefilm ovviamente non la mettono su questo punto. Noi la sappiamo quella è la verità. Non preferiscono non metterlo. Durante il telefilm, appunto, durante la serie, ci sono altri personaggi della DC Comic, tra cui Wonder Girl. Tutti conoscono Wonder Girl. Che anche lei ha smesso i panni di Wonder Girl per essere semplicemente se stessa, cioè Donna Troy. Non fate battute, cioè, si chiama Donna Troy, questa è il vero nome. Non fare battute, e per fare la fotografa sono d'assalto, Donna Troy. Donna, non nonna, no. Cioè, almeno donna, cioè, no, nonna Troy. Donna Troia, no, Troia è la mamma di Loxana, ricordiamo. Esatto, bravo. Sì. Ci sono Hook e Donna, che sono altri due che si vestono. Cioè, sono tutti uccelli, praticamente. Tutti uccelli, perché ricordiamoci che Robin non è che è un pettirosso. Esatto. E praticamente anche loro stanno lì lì. Scusa, per abbandonare. Non è la rondine? No, pettirosso. Pettirosso. Anche lì sta, infatti, c'è la tuta rossa. Anche loro stanno. La rondine c'è la Super Tiger. La luna non porta la primavera. E, anche loro hanno intenzione di abbandonare subito dopo l'ultimo arresto, tra virgolette. Quindi c'è una storia di gente che sta cercando di uscire dal mondo dei supereroi. Quindi anche questa è una cosa interessante. La storia ha degli alti e bassi, vi dico ancora soltanto... ancora devi raccontare. No, io non ve la racconto la storia. Non ve la racconto, vi racconto i bassi. I bassi della storia. Allora, gli effetti speciali. Gli effetti speciali. Allora, andiamo downtown. Che c'è da dire sugli effetti speciali? In computer grafica. Sono speciali. Ma sono molto speciali, perché veramente sono sul limite del pezzente. Li ha fatti Gusella con Gusella forse avrebbe fatti meglio con animazione. C'è una scena di un incidente dove praticamente una macchina sbanda, vista dall'alto, una macchina sbanda, esce di strada e ammazza due personaggi. Pare Armageddon ma animata brutta, cioè cose che si muovono, cioè brutta. Esplosioni e incendi fatti posticci, però veramente, cioè, su lì hanno lesinato sugli effetti speciali. Però diciamo che ricordiamoci che Netflix nei suoi originals predilige la quantità e la qualità. Però dopo vi do una chicca su una cosa di cui parlerò la settimana prossima. Dopo, alla fine, fra un'oretta, ragazzi. È finita la puntata. Vabbè, c'è ancora tempo. Questa è i bassi. Gli altri bassi sono praticamente quelle cose inspiegabili che succedono nei film, del tipo: tu sei un detective da polizia dopo due anni che sei entrato nella polizia, sei un fenomeno. Vabbè, ti ha addestrato Batman, c'è tante conoscenze. Se potresti, secondo me è una cazzata, però potresti anche diventarlo. Dopodiché, a un certo punto, trovi questa ragazza che viene rapita, e tu per andarla a recuperare, sparisci dalla centrale e nessuno ti cerca. Per giorni e giorni. Vabbè, e giorni succedeva pure a Superman. Nessuno ti cerca. Vabbè, quando Superman era giornalista, sì, magari lo voleva fare, diciamo, voleva, anche se. Però tu sei un poliziotto, cazzo. La gente vorrà sapere che cazzo di fine hai fatto, soprattutto quando la tua. Vabbè, non spoileriamo. Comunque ti avrebbero potuto cercare. Cioè, però sparisci. Vabbè, ragazzi, sono licenze poetiche. Vabbè, sono cose che ci sono delle cose inspiegabili. Che. Grazie a te. L'inspiegabile è il fatto perché sei mezz'ora che stiamo a parlare di questa cosa. Ma infatti, prima che cambi idea, metti quella sigla lì. No, dai, basta. Dai, veloci. E palle. E come tutte le settimane vi ammorbiamo con la nostra visione di quello che è successo. Pensate che questa settimana ne avremmo potuto fare a meno, ma no. Posso dire una cosa? Hai capito, Stiglpiani? Lo so, ho capito, ma... Cioè, nel senso, io ci ho solo dato una cosa, così poi lascio la parola a, a Sbano. Allora, autori di Star Trek del cazzo, che state facendo tutto sommato un discreto lavoro, però siete stronzi lo stesso. Ma quante cazzo di volte, perché questo poi l'avete fatto in tutte le serie, quante cazzo di volte dovete far finta che quando che il teletrasporto non funziona quando ci stanno gli scudi alzati, cioè non ve lo, cioè, lo sapete insomma. Proprio ma in gli questo... scudi in entrata, cioè, o gli scudi in uscita? Nel senso, se io, cioè, se prendi mia cugina, no, la casalinga di Voghera, che di Star Trek non gli frega un cazzo, sanno perfettamente che quando ci sono gli scudi alzati il teletrasporto non funziona. Esatto. Salvo, è come 5 stelle, salvo che, salvo fatto, salvo eccezioni, salvo se serve. E esatto. In questo caso serviva che uno si ma poi c'è stata una scena ridicola, perché non solo sta persona che si deve trasportare e non dovrebbe farlo sul pianeta, se sta andando a teletrasportare sul pianeta con gli scudi alzati e non lo potrebbe fare, ma la persona che gli deve impedire di fare questa cosa, invece che andare... potrebbe impedirgli, esatto, no? Perché lui sta sulla, che sta poi sulla ha tutte pedana. Le cognizioni per dire, io guarda che se lo fai mori. No, perché non è quello il, non è quello il problema. Il problema è che si aggiunge, cioè avrebbe tutto il tempo ad andare alla console e disattivare il teletrasporto. Che cosa fa? Gli punta la pistola contro, mentre allora, c'è il timer che scorre. Soluzione. Perché? Cioè... soluzione che uno sceneggiatore un minimo avrebbe potuto fare, cioè lei comincia a tic tic a digitare sulla console. Ah, hai bloccato il comando. Hai messo il pin. Ho messo il pin. Poteva metterci una cazzata del genere. Ho capito, ma prima provaci. Cioè, infatti, no, poteva inventarsi che aveva messo un sistema automatico, non poteva essere bloccato. Allora va bene, ci sta. Ma non lo fai. Vabbè, però dai, quelle sono come di, appunto, licenze poetiche. No, licenze. Però voglio dire, noi eravamo partiti da un presupposto fin dai primi episodi della prima stagione, che c'era questo Saru che era praticamente un po' l'unico l'unico membro della sua razza, per vari motivi, che aveva raggiunto la federazione, e quindi era l'unico che il piano che fosse mai stato un membro della federazione fino a quel momento. E considerando che dopo Star Trek Discovery di quel piano non se ne è più parlato, uno dice vabbè, evidentemente. E no, evidentemente è un cazzo, perché adesso la situazione sta mutando in maniera significativa. Però non faremo spoiler. Esatto. Cioè, teoricamente, per come è finita la puntata, non è detto che i Kelpiani possano entrare nella federazione subito. Magari dopo X anni. Dice a proposito, Davide. Io però su sta cosa. Su sta cosa non. Vai, leggi perché. Dice, cioè... Davide Gatti: io rimango sempre basito come un popolo di pseudo alien neri sgoccioranti che vivono in pozze di melma siano stati in grado di sviluppare una tecnologia, sì, quasi superiore a quella della federazione. Su questo sono abbastanza d'accordo. Manco un cacciavite riuscirebbero a tenere in mano. Ma io l'avevo interpretato. Ma possiamo parlare anche del. Che è tipo uno schermo olografico loro. Esatto. Sì. Quella era una sorta di incarnazione remota. Sì, ci potrebbe anche stare, che in realtà è un modo, magari, trasferire la loro immagine, per dirti, no? Cioè, potrebbe anche starci. Però in effetti sta cosa, però nelle varie serie di fantascienza in generale, se noi andiamo per esempio a Star Trek Enterprise, gli X-Indi, allora quelli subacquei, no? Cioè subacquei, i marinari là, insomma, come fanno a costruire le astronavi che non ci hanno manco le braccia? A proposito di subacquei, ragazzi, sapete che è morto Gabriele Laporta? Non abbiamo fatto il coccodrillo. Vabbè. Invece io, sai cosa temevo mentre guardavo la prima parte dell'episodio della scorsa settimana? Che potesse finire come in Insurrection, e cioè che in realtà sotto sotto fossero, capito, la stessa specie in un'evoluzione diversa. Io pure lo pensavo. Ci avrebbe avuto anche più senso, però, esatto, perché lì non potevano intervenire proprio la federazione. Però mi sono detto, normale. No, se è così, è una copia di loro stessi, non si può sentire. Invece hanno preso un'altra piaga. Un'altra piaga, sì, perché esatto. Vabbè, e niente. Secondo voi, sondaggio, un'altra piaga, non capisce un cazzo, in questo caso lo sentiamo. Secondo voi questo personaggio è Angelo Rosso? Chi è? È Adam di Evangelion. Sono scatenati i forum su questo. È palesemente Adam di Evangelion, cioè le stesse ali. No, secondo me è Mad. Harry Mad non è, però assolutamente Mad, che è stato inglobato da questa armatura e non può uscirne. Sui forum c'è uno scatenaggio incredibile di ipotesi. Ovviamente la più diciamo quella che secondo me è meno sensata, però è la più gettonata, è che sia l'orca. L'orca Mad. perché sì, comunque prima o poi tutti si aspettano che l'orca ricicci fuori in qualche maniera. No, però scusa un attimo, il problema è il contesto, non cioè, può essere perché l'orca va a segnalare 6-7 punti, no, dove ci però sono... scusami, ricordiamoci che Spock da bambino già aveva queste visioni, che c'entra l'orca? Ma perché lui viaggia nel infatti, tempo, sto tizio, cioè voglio dire, c'era pure nel, durante, è in grado di viaggiare nel durante tempo. La terza guerra mondiale è andato lì a salvare quelli da chiesa, quindi questo, cioè, questo è un essere che viaggia nel, e allora ve la butto lì, e se fosse un Q? No, c'è l'armatura. Scherzo. Vabbè, che c'entra, c'è l'armatura? Quello è un modo di rappresentarlo. Potrebbe essere anche una, un ologramma. Potrebbe essere Armaduke più che altro. Buon'anima di Armaduke. No, Gisella, tu lo sai chi era Armaduke? Armaduke, l'ho già sentito, è qualcosa di un cartone. No, certo, un cartone animato. Le fantastiche avventure di Armaduke. Era una cosa radio. Una cosa radio, sì, Radio Armaduke. Armaduke era non l'Husky, il Malamut di Ambrogio Foga. Esatto. Chi è Ambrogio Foga? Chi era Ambrogio Foga? Era un programma televisivo, cioè famoso. Ambrogio Foga. No, vabbè, ragazzi, no, allora, ragazzi, no. Ambrogio. Si stringo la mano perché Ambrogio Foga. Vabbè, allora, tu sei troppo piccolo per ricordarlo. Vabbè, normale, piccolo, cioè. Marto a 2 metri, piccolo un cazzo. No, ragazzi. Però Marmaduke l'ho già allora, sentito. Ambrogio Fogar era il presentatore. Ok, era Gatti ci dice che il regista non si sa di che cosa, perché non c'è un regista unitario, però comunque ha negato che l'orca apparirà mai in questa... L'ha negata l'orca. Allora, Ambrogio Fogar era un... esploratore nonché presentatore di un programma, diciamo, di documentaristica, sì, vabbè, di Canale 5, presentatore secondario, lui era prevalentemente un esploratore, che si chiamava Jonathan Dimensione Avventura. Sì, vabbè, ma era, tra l'altro, aveva, quando faceva queste spedizioni anche un po' estreme, aveva sempre con sé questo Malamut che si chiamava Armaduke. Purtroppo durante una di queste spedizioni ebbe un bruttissimo incidente, rimase tetraplegico dal collo in giù. Non il cane, Armaduke morì di morte naturale. E poi in alcune, diciamo, poi ovviamente per le complicazioni della malattia morì anche giovane, però insomma. Beh, giovane relativamente, però insomma, diciamo che è la fine che tanti di questi esploratori, purtroppo esploratori estremi, ricordiamo, perché comunque se non sbaglio era quello che si era fatto il Polo Nord. A piedi, cioè ragazzi, non era l'ultimo dei stronzi, insomma, quindi no, per carità. Tra l'altro lessi anche un libro veramente particolare, insomma, sulle storie, e c'era una parola sola che faceva. Sai dove avevo sentito Armaduke? Ecco. Armaduke l'avevo sentita in Rick e Morti. Non mi ricordo, non credo, sì. Vabbè, magari un nome simile, forse, simile, no? Forse Marmaduke. Vabbè, no, ma probabilmente Armaduke era preso da qualcosa che adesso ci sfugge. Il nome del cane magari era un riferimento. Un applauso ad Armaduke, un applauso adesso ad Armaduke. Adesso lo cerco. Va bene. Mentre voi parlate di cose. Bene ragazzi, dunque anche questa l'abbiamo portata a casa, dicendo sempre come al solito cose divertenti. Scusa, ma io adesso che dico? Mi hai fregato la battuta? Anche sta puntata l'abbiamo portata a casa, è la mia... Ah, scusa. Adesso è questa allora... musica da gay. È così, è la... Ma perché deve essere gay la musica? Perché la musica che chiude deve essere gioviale, la musica allega, è gioviale. Cioè, tutte le puntate è così comunque, io non voglio dirti. Non sì, è vero. Assolutamente sì, e comunque anche questa l'abbiamo portata a casa, come al solito abbiamo raccontato cose divertenti, cose serie, abbiamo raccontato i cazzi nostri che sono sempre le cose più belle. Ricordate www.runtimeradio.it dove andare a cercare Runtime anch'io, se volete fate qualche donazione oppure abbonatevi al, insomma, al contributo regolare con Patreon, ma capisco che non a tutti fa piacere, sono tanti sistemi, poi magari scrivetemi in privato, mandatemi, vi ricordate quando si mandavano, quando si pagavano le cose con le buste con i francobolli, no, oppure con le 1000 lire dentro? Beh, sì, erano altri tempi, erano veramente belli quando con 1000 lire ci facevi un sacco di potete anche darci un buono per la salaria. Quindi, ecco, vi fanno un buono, sì. un buono sulla salaria dove prendere tante palle, siamo di bocca buona. Tanti. Gusella sta tirando un aspetto di te che mi è completamente nuovo. Infatti, insomma, che schifo. E... questo è perché ci sono dei vicini che lo tormentano. Problemi con i vicini, secondo me. Vicini troppo vicini, lo ricordate il telefilm? Vicini di casa. Ma, intanto vado a salutare Simone. Armaduke Gusella. Ciao. No, devi fare la foca. Vado a salutare Walter Focasbano. E adesso non so cosa inventarmi per Marco, detto De Fonsi. Motherfucker. Gualdi. Ehi. Yeah. Ci vediamo alla prossima puntata. Mercoledì prossimo, non con me, ma con loro in qualche modo. Si organizzeranno. Ciao. Ciao.